E se non sono capace? E se non riesco a cambiare? E se questi dubbi ti suonano familiari? Conosci quel brivido davanti all'ignoto? È la vertigine. Lasciati ispirare da Vertigini, storie avanti. È il nuovo podcast di Roberta Lippi, realizzato da Storie Libere per Verti Assicurazioni. Seguiteci su storielibere.fm e sulle app di ascolto. E su questo meraviglioso clima montanaro che ci ricorda un po' quello che sta per succedere questa sera qui su runtimeradio.it, puntuale, io sono Simone Pizzi e vi do il benvenuto. Il pallone rotondo, io corro dietro al pallone per quasi un milione o forse di più. Io sogno sempre il gol, sogno sempre il gol, però faccio il portiere. Grande, grande, grande sigla delle stupide creature che salutiamo immediatamente. Ciao stupide creature! Ciao, ciao. Bene, benvenuti, come state? Tutto bene? Beh, mi si battono le mani. Basta, basta, basta. Bravo, basta, bravo, basta. Bravo, bravo. Bravo, grazie, bravo, basta, basta, basta. Noi stiamo facendo radio con altissima tecnologia e soprattutto altissima professionalità. Le finestre aperte, i cani che abbaiano, ma d'altronde è estate, fa caldo. Michela De Paola. Salve a tutti, felice come Heidi a Francoforte. Fiancoforte. No, Fiancoforte Heidi non era allegra. Comunque, appunto. Hai spoilerato. Appunto. Comunque, appunto. Di sempre spoilerà. Marco Gualdi. Bravo, bravo. Perché io sono a Fiancoforte. Sì, sì. Fiancoforte. Sì. Francesco Lobby Frontali di Muro. Penso che il fatto che qui in ritardo, però l'estate ancora non è venuta qua. Con 4 minuti di ritardo rispetto a voi l'estate. Ah, ok, ok. Va bene. Allora, ragazzi, questa sera intanto iniziamo con il dire, dare la prima notizia importante, perché c'è stata già una sentenza, praticamente perdendo 2-0 contro il Galles, la Turchia se ne va a casa, giustamente. Anche se già stavano più o meno a casa. Perché stavano... E questa cosa ci rattrista, perché sarebbe stato bello vedere una finale. Sì, Italia-Turchia. Esatto, invece. Esatto, no, esatto, no, però purtroppo questa è la prima sentenza. Michela, sei contenta di questa eliminazione? Assolutamente sì, nel senso, per me la Turchia non doveva proprio starci neanche dentro, giusto? Sì, sì, sì. Non è concepibile. Concepibile, perché concepibile. La squadra di oggi ha diritto di esserci. Ungheria, Polonia, qual era? La Svizzera. Svizzera, stiamo giocando contro la Svizzera. Contro la Svizzera. Ma ah, vabbè, la squadra di oggi comunque è neutrale, sbrava, diciamo così, è neutrale. Okay, neutrale. Basta che non sei froncio. Chiudi la finestra, perché noi possiamo continuare a fare così, insomma. Basta che non hai tendenze uomo-sessuali e c'è la neutralità. Tutto. Bene, ragazzi, allora iniziamo subito con il vivo, perché così poi diamo un attimo spazio anche a questa cosa. Come abbiamo detto, questa sera c'è Italia contro Svizzera e ce ne saranno di cose da dire. Guardi, c'hai cose da dire, mi raccomando. Poche cose, poche perché cose. In realtà la Svizzera, cioè, è talmente vicina a noi che non è così, la conosciamo, però possiamo, bene. Possiamo raccontare delle volte che ci siamo fermati all'autogrill, abbiamo speso 100 euro, insomma, te ne abbiamo da raccontare. Il passo quando abbiamo preso il caffè, insomma. Il passo del Gottardo. 25 euro a testa di caffè. Esatto, esatto, esatto. Oppure quando ascoltavamo la radio svizzera italiana. E ci raccontava aneddoti e fatti che potevano essere bellissimi, bellissimi. Successi tranquillamente nella Locride. Esatto, però, esatto. Però vabbè, tipo tangenti, arresti, cose. Brava la Svizzera. Volta che nella perché radio la Svizzera italiana. La radio svizzera italiana abbiamo ascoltato una canzone bellissima. Ma non abbiamo mai più ritrovata. Benissimo, è vero. Diceva cazzo in culo, cazzo così. Sì, è vero, qualcosa del genere. No, qualcosa sulla pipì c'era. Sulla pipì, ah, sulla piscio, pipì, io piscio. Ah, io piscio qui, è vero, ma ricordo. Chissà che cosa diceva realmente in tedesco, però a noi ci piaceva. E intanto ascoltiamo gli inni nazionali, c'è l'inno nazionale italiano. Fratelli, l'Italia, l'Italia, se resta. bravi, bravi, bravi, bravi. Dopo raccontiamo. È tutta fatta in diretta, assolutamente. Esatto. Poi raccontiamo di questo. Ogni volta fanno in diretta, sempre più uguale della volta precedente. Sempre più uguale. Perché è una sfida. Della prima volta che l'ho ascoltato. Vabbè, per rispetto, sentiamo anche l'inno svizzero, giustamente. Heidi, Heidi, brauchst du zum glücklich sein? Facciamo naturalmente presente, giustamente chiamando in causa Marco Bianchi e Stupide Creature, che sono confinanti con la Svizzera, che questo non solo è l'inno nazionale, ma è anche in lingua originale, giusto? Esatto, ma lo stanno seguendo loro comunque. Sempre loro. Sempre è Marco loro. Bianchi che canta, sì. Infatti. Sì, io sento. Un perfetto tedesco la voce. Che non capisce, però lui lo parla. Esatto, esatto. Lo parlo perfettamente, tra l'altro non so se lo sapete, ma in Svizzera abitualmente si usa cantare questo brano completamente nudi. Nudi, esatto, nudi. E in lo sto facendo anche tu adesso, giusto? Io, no? Ovviamente ma sì. Ma noi infatti siamo nudi. Ah, ok, ottimo. Okay, però proprio questa volta che non abbiamo il collegamento video. Michela, in chat c'è qualcuno? Allora, in chat c'è Walter che ci sente benissimo. Meno male. La signora io che non ci sente, che non riesce a sentirci. No, e che delusione. Olivia, che quindi delusione. Salutiamo Girasole che ci dice arrivo. Ok, mi permetto prima di entrare nel vivo. Aspetta, che non sai se Olivia sta sentendo, quindi Olivia facci sapere quando vabbè, senti. Olivia, facciamo finta che ci senti, perché non è che posso tenere a servizio questa cosa. No, la fermiamo la radio. Cioè. Però volevo dire questa cosa, dato che tanto ancora stiamo facendo adesso gli inni, che praticamente faccio una piccola dedica a una persona che ultimamente ci è rimasta un po' male, no? Allora giustamente ho pensato, invece di chiamarla, la tecnologia gli dedico, sostiene, gli dedico questa canzone. Con l'intro più lunga del mondo. Questa canzone si chiama Sunflower, appunto serviva insomma per come bravi stupide creature, bravi bravi come bravi. Dedica bravi le stupide creature. Anche questa è seguita dal vivo con la voce di Marco Bianchi modulata esatto. Mauro io con una fetta di Appenzeller in bocca proprio per agevolare bravo. Il cane. Ma sono talmente bravi comunque sono talmente bravi che lui mentre canta in sottofondo parla anche, cioè cosa... esatto incredibile esatto, sì. Bravo. Dato che abbiamo chiamato in causa Mauro, a questo punto ci dice la formazione dell'Italia, giusto? Vai, però in versione musicale ovviamente. Rock, certo, sì. Chiaro. Vai. Numero uno Eusizio. lavora fra i due pali. Numero 2 e numero 3, Ciruzzo e Gamba di Legno. Fallino e Fallotto sono ai lati. In quanti giocano? In 11? In 11, sì, in 11. Normalmente in 11, sì. Poi c'è rossi, bianchi, verdi, gialli, che comunque sono poliedrici e quindi si passano la palla quando ne hanno voglia. Ne mancano ancora due, che sono gli attaccanti di solito, Brambilla, che è di Milano se non sbaglio. Certo. E poi c'è Scognamiglio, che non mi ricordo la provenienza, bene, la verità. Scognamiglio, belli, bravissimi. Mi sembra che di Bolzano. Scusate, ma c'è la quota nera? Perché sapete, no, che c'era, se... una volta c'era. Lo so, ma qui non so se siamo politicamente corretti. No, non siamo politicamente, non ci frega niente. E a questo punto c'è Simone. Io non so se c'è Simone. Vai ai lati. Eccomi, presente. No, eccolo, grande. Adesso Simone invece ci dice la formazione della Svizzera. Sempre musicata, chiaramente. Sempre musicale. Allora, la formazione della Svizzera è la seguente: c'è il Tony, il Giacomo, il Gianfranco. Francesco, lo Scognamiglio, mi sa che è parente dell'italiano, perché sono dei cinesi, secondo me uno scappato di là. Quanti ne mancano? Il Gianfranco 2, il Patrizio 4, e c'è il Pepi. Dai. Sono fratelli, Pepi di sopra, Pepi di sotto. Esatto. Ma sono la stessa famiglia. Sono di Lugano. Ok. Lugano bassa, però. Il Reto, hai dimenticato il Reto. Ah, il Reto, libero, con il Reto libero. Allenatore? Allenatore mi sfugge, ma allenatore mi sfugge, si mi chiama, sfugge, mi sfugge, esatto, si chiama così, la prima donna allenatrice, mi sfugge. Il numero 7, esattamente, il numero 7 si chiama Embolo, davvero si chiama Embolo. Ma non ci crediamo, sai, è l'unica cosa vera, io non ci credo. Confermano anche in chat cosa confermano? Che un giocatore della Svizzera si chiama Embolo. No, è quello che si è sentito male, che ci ha avuto l'Embolo. Allora Michela, secondo perché la Turchia è stata eliminata, Michela? È stata eliminata perché è scorretta politicamente, quindi hanno detto adesso la Turchia. È un'eliminazione politica, sì, esatto. Certo. Quindi hanno detto, fanno bene a fare una rivoluzione. Racconta la regola dell'eliminazione politica nelle esatto. L'eliminazione politica, e arriva Lotito e dice: questo mo cacci. Ah, Lotito, però. Che gran potere. Che poi è una persona politicamente molto corretta, insomma, sappiamo che è pure lui. Bene, però vabbè, non lo so perché è stata eliminata. Dì la parola due, secondo te perché è stata eliminata? Deducilo, se non lo sai. Penso che abbiano perso un'altra partita e quindi sono stati eliminati. Brava, perché? Grazie Arca. Perché? Perché avendo perso l'altra puntata, certa, se perdi sempre te cacciano. Bravo, se perdi sempre, ma questi che cazzo stanno a fare? Andare via. E giustamente sono stati mandati via. Brava, mi sembra giusto, io lo accetto come risposta. Sì, ci sta assolutamente. Infatti, sono pienamente d'accordo. Diciamo che è stata intanto è l'unica per ora formazione che è stata eliminata. Poi, il biondino svizzero è carino, però. Ti piace? Certo. Ah, ma è cominciata la partita. Ah, questi sono i giocatori che giocano. Esatto. Quindi, se questa sera l'Italia vince o pareggia, che succede? Se questa sera l'Italia vince o pareggia, va a finire agli ottavi di finale. Direttamente. Agli ottavi, ho capito, vabbè. No? Sì. Ho visto? Tutto sommato hai ragione, insomma. Ho fregato. Ho studiato. Che cos'è un ottavo di finale? Un ottavo di finale è un ottavo di finale. Tu prendi il finale, lo dividi in otto e glielo dai. E quello è un ottavo di finale. Ma tutto sommato è così. Esatto. Cioè. Un ottavo di finale è la fase preliminare al quarto di finale. Esatto. Oppure Marco Bianchi, che è un musicista, ci spiega che cos'è un'ottava di finale. Un'ottava di finale è una cosa che si ripete due volte, ma una esattamente più in alto, cioè più in alto dell'altra. Esatto, è un'ottava sopra praticamente. È un'ottava sopra, soprattutto se giocano con gli stadi, sai, quelli ad anelli. Se scegli il primo anello, giochi nel primo anello, è l'ottava sopra. Se giochi nel secondo anello, è due ottave sopra. Se giochi al terzo anello, tre ottave sopra. Ok. Allora, ragazzi, Volevo anche ricordare che nei nostri social, ossia Telegram, praticamente noi usiamo solo Telegram oramai, siamo diventati fossilizzati. Tutti i boomer usano Telegram. Eh sì, perché c'è troppo stress, mettersi lì Twitter, mica Twitter, oppure che so, Instagram, mo c'è Instagram. Twitter, ma noi Twitter non sappiamo neanche che cos'è. Abbiamo fatto un sondaggio chiedendo insomma alla gente, come la scorsa volta, chi avrebbe vinto secondo i partecipanti, gli ascoltatori a questa trasmissione, chi avrebbe vinto questa sera. Diciamo che una buona, allora, c'erano varie opzioni, diciamo vince l'Italia è una delle quelle più quotate, però in realtà non è proprio, insomma è appena, è dominante, cioè. Appena sopra a, si pareggia perché la Svizzera è neutrale, giustamente, perché essendo neutrale la Svizzera non puoi cioè non puoi, capito, non puoi essere aggressivo, vincere contro la Svizzera, cioè è un atto aggressivo vincere, quindi è neutrale. E non possono neanche vincere loro perché sarebbero aggressivi loro e quindi non possono farlo. Esatto, poi insomma ha preso qualche voto, veramente pochi, ma pensavo di no, Lulic al 71esimo. Questa la viscono in pochi, però. E poi dopo la spieghiamo. Grazie e per. Ha vinto in maniera preponderante, proprio con plebiscito. Chi Ciro? Oddio. Che poi mi sembra che anche l'altra volta c'era sto. Sì, sempre, infatti. So. Consiglierei di toglierla perché sennò vince sempre. È vero, hai ragione. Quindi la prossima volta leviamo per manifesta superiorità. Ma scusate, voi non avete vissuto quel momento esilarante, quel momento incredibile. Beh, esilarante, c'era il dramma. Chi Ciro? C'era il dramma di una madre che vedeva il proprio figlio portato via dal Covid, anche in quel caso. No, non era il Covid. Erano 20 anni fa, 30 anni fa, non c'era il Covid. Via la gente, no, 35-40. Anche di più. No, 40, ma io mi ricordo, no, che non ero ancora nato quando l'ho visto. No, 40. Insomma, no, 40 no, perché 49. Io sono nata 41 anni fa e me lo ricordo, quindi saranno tipo 36, 35. Se vuoi ci documentiamo anche in tempo reale. Un cazzo. Ehi Google, lo sto già facendo. Quando è successo l'incidente del figlio di Sandra Milo? Ecco i risultati di ricerca più rilevanti. Niente, non pensavo che lo sapesse, ma non. No, lui lo sa, ma non te lo dice. Oggi è un altro 8 giorno. 8 gennaio 1990. 90, vedi, dai. 90. Pomeridiana, l'amore è una cosa meravigliosa su Rai 2. Anche la morte è una cosa meravigliosa. Cioè, in quella trasmissione proprio. Comunque, prima di far partire il primo contributo importante, perché come sapete, insomma, abbiamo concentrato come al solito le tante energie, tante risorse per questo evento. Spiego insomma il fatto che in panchina nella Svizzera c'è un certo Vladimir Petkovic, che è stato quell'allenatore lì, quello dell'Ulic 71, insomma, quindi ecco, capisco insomma che alcuni dallo Stadio Olimpico abbiano un po' mugugnato per questa cosa. Vabbè, comunque, detto questo, Marco, che facciamo? Andiamo con il primo contributo così, boom. Poi dopo andiamo dall'animale. Esatto. Sta scalpitando, esatto, lo so, bisogna lo so, tenerlo a bada poi. Lo so, hai ragione. Ma noi sempre questi animali così strani dobbiamo. Certo, cioè mica fa le cose facili. Io mi dissocio. Buono, stai buono. Dopo vi raccontiamo che animale è questo. Ok, però vedi, tu l'hai chiamato, lui si è agitato. Sei sveglia, certo. Quindi andiamo da Marco, vai Marco. Allora, cari amici, questa settimana abbiamo preparato un'intervista molto importante, un'intervista che ci ha dato la possibilità di conoscere alcuni retroscena della scuola calcistica svizzera, in modo particolare ticinese, perché è davvero confinante e teatro di vacanze da parte nostra, perché noi siamo tutti per un quarto o per un terzo o per un mezzo svizzeri. Quindi è inutile che facciate dell'ironia così, puerile. Spicciola. Esatto. Okay. Anche spicciola, esatto. Ma sai, non mi veniva perché in Svizzera ci sono le banche, sai, gli spiccioli non è che vanno. Non c'hanno i spiccioli. Gli svizzeri hanno le palanche. Esatto. Cioè, esatto. Ma soprattutto fanno la conversione del resto euro-marco 1-1. Questa è la cosa importante. Veramente è franco. Franco, hai ragione, Franco. Scusa. Sì. No. Comunque, a proposito di franchi, abbiamo invitato un grande calciatore, forse non è così tanto grande, però è comunque un personaggio sicuramente di spicco e che denuncia un'ingiustizia, perché anche la Svizzera dà dei problemi in termini di giustizia e di sportività. Abbiamo qui con noi questa sera un giocatore discreto, giocatore svizzero, che non è molto famoso. Puoi presentarti, scusa, non mi ricordo il nome, ho preso male gli appunti. Bene, grazie per l'accoglienza intanto. Allora, io sono Reto Righenzi, ho sempre giocato a pallone, ci ho corso dietro già che ero bambino. Dopo sono andato, boom, verso i 13-14 anni che mi hanno preso al Bellinzona. È stata una bella soddisfazione, perché comunque io ho sempre vissuto a Bellinzona. E allora mi hanno preso nella squadra della mia città. Boom, dopo siamo andati in giro a giocare al pallone. Una volta ho preso anche una traversa. Ecco, Reto Righenzi, discreto giocatore svizzero con un grande palmarès. Vedo sulla tua cartella clinica varie distorsioni, caviglie, ginocchia. Mi dicono i tuoi allenatori che sei uno che suda molto, infatti vanti 4 bronchiti al mese di agosto, cosa anche abbastanza insolita. Ma lo sport e la vita è bella anche per questi motivi, è bella perché varia. Boh, sì, nel mio caso sono stato un po' sfortunato in un paio di occasioni, però ho sempre corso dietro la sfera. Ecco, Righenzi, come mai ci hai chiamato per venire qui da noi? Ecco, che cosa vuoi denunciare al mondo del calcio? Allora, io sono stato preso un attimo in giro dalla Federazione Svizzera del Calcio, perché ero convocato a giocare questi europei e ci tenevo moltissimo. Sognavo di notte, perché io di giorno lavoro alla Migros e la sera vado a fare gli allenamenti, no? Allora direi che sono uno che si dà anche da fare nella vita. Allora, ricordiamo che Righenzi si riferisce, lo dico nella lingua retoromanza, alla squadra nazionale del Malapè della Svizzera, giusto? Sì. Che ti ha convocato inizialmente, se ho capito bene, e poi... E dopo si sono rimangiati come la parola, no? Si sono rimangiati la parola. E secondo te per quale motivo? E buon talzetto, da lì anche in Svizzera non pensare che siano tutti onesti, Perché io, sì, è vero che ho 48 anni, però la mattina quando sono giù alla Migros a metter via i meloni, negli scaffali li metto dentro di tacco. Ecco, ma mi risulta che il tuo ranking, insomma, degli ultimi anni non è stato nel Bellinzona, insomma, zero azioni gol, zero azioni di attacco. Abbiamo avuto, come ricordava il mio collega prima, dei fermi per malattie abbastanza lunghi. Boh, ma quella lì, sai, quella lì è un po' falsa propaganda, perché dalle mie parti, no, io sì, è vero che è un po' che non gioco nella squadra titolare, no, boh, ma io adesso, ridendo e scherzando, in campo non scendo da 15 anni. E infatti mi risultava solo due presenze, praticamente ti hanno fatto entrare al 90esimo, gli ultimi minuti di gioco. E lì sì, però avevo 17 anni. Guardetto, quindi tu stai facendo una denuncia contro il calcio mainstream? Assolutamente. Dici che c'è qualcosa di sporco dietro? Assolutamente. E non sarà per caso perché tu ti ammali sempre in estate, prendi la bronchite, si gioca a giugno? Questa è troppo dietrologia, complottismo. Secondo te cosa potrebbe essere? Degi bassi, classifiche basse, panchine consumate. Boh, ma talzetto, quelle lì sono le cose che mettono in giro poi loro, no? Per dire, per screditare un grande calciatore. E io sono sempre stato presente a tutti gli allenamenti. Poi se io, è vero che sono 15 anni che sono su in macchina con riscaldamento acceso, aspettare che mi chiamino di venire giù, no? Ho comprato il caravan apposta per star su bello comodo, no? E guarda, secondo me potevi comprare anche una tenda, nel senso, così ti piazzi bello comodo. Puoi anche prendere la residenza vicino al parcheggio dello stadio. E ci avevo pensato anche a quello, ma dopo che dicevo sui prezzi che sono troppo alti, capito? Adesso non è il momento di comprare. Sì, allora l'Italia vanta una grande tradizione a livello di Coppa del Mondo, ne abbiamo vinte 4. La Svizzera mi pare che... Nessun titolo. Zero titoli, come zero diceva titolo. Il nostro amico. Cioè adesso venire qua nella parte del calcio a menarci col pallone, mi hanno lasciato a casa, sono un poverino. Va bene tutto, però scusa, sei svizzero, vai a giocare all'hockey, no? Che siete forti. E ci avevo pensato all'hockey, però sai qual è il problema? Con tutto quel ghiaccio lì, ho paura di ciapa freccia. Beh, mi sembra anche giusto, insomma, d'altronde noi poi alla fine questa funzione anche importante di denuncia sociale, no? Dove alla fine è uno schifo, uno scandalo. Eh sì, perché noi vediamo il calcio sempre con questo scintillante mondo di giocatori felici che guadagnano tanti soldi, in realtà dietro c'è tanto sporcizia, giusto Marco? Sì, soprattutto in un paese come l'Italia, perché tu entri in Svizzera è già più pulito, Sei già a chiasso, per dire, le strade sono più in ordine. Vai, aspetta, vai. Quindi siamo rimasti, insomma, che abbiamo questa bellissima cosa della Svizzera che è un calcio sporco, insomma. Sono cose brutte, insomma, ma avete fatto qualche altra indagine per scoprire, insomma, se è una cosa proprio tipicamente svizzera o se proprio tutto quanto il calcio mondiale è così, cioè, così per curiosità? Beh, diciamo che secondo le nostre fonti al momento la questione è globale, perché si usano le balle per giocare. Le balle, specialmente nel mondiale, è globale. Nell'europeo possiamo dire che magari è solo a livello europeo. Nei campionati nazionali è a livello nazionale. Sì, io penso che invece nei campionati amatoriali sia, credo, a livello amatoriale, non vorrei sbagliarmi, ma forse sì. Ma infatti l'altro giorno siamo andati a vedere una partita di calcio tra San Giovanni Milanese e cos'era, San Fermo della Battaglia, e anche lì il prete che faceva l'arbitro, secondo me, ha fatto un paio di interventi arbitrali non consoni, e possiamo pensare che anche a livello oratoriale ci sia questo problema. È perché il marcio comincia proprio dalle giovanili, insomma, dall'oratorio. Sì. Perché sì, l'oratorio è il marcio. Dalla Danimarca. Anche sì. Danimarca lì è macello. C'è del marcio in Danimarca di solito, sì. Invece Francesco, noi abbiamo un animaletto, però dobbiamo aspettare un secondo per l'animaletto, perché ha avuto un problema. Quindi stiamo cercando di... È scappato l'animaletto per casa, stiamo cercando di tirarlo fuori, ma non è facile. Infatti se sentite i rumori... Se è reintanato, vabbè, ma quello è molto territoriale, quindi dovete stare attenti. Questo animaletto che, lo diciamo, non è un animale italiano né svizzero, non è neanche europeo, proviene proprio da un altro continente. Da un altro mondo, anche tanti, da quanto ne so. Non si invia distinzione, ma... Non è che fossero sti animali tutti... Non è che ne sentiremmo la mancanza se si estinguessero, insomma, perché, cioè, alla fine, ma che cosa c'hanno di peculiare ste bestie? Cioè, a parte fare dei versi orribili... Una cosa là, però, poi è troppo spoiler, dobbiamo dirla dopo. È vero, c'hanno una peculiarità che però è meglio dirle dopo, insomma. Vabbè, nel frattempo stiamo vedendo la partita, è bellissima, eh? Non so se voi state anche, mentre fate altre cose, come è normale che si faccia durante una partita, se state vedendo anche queste due squadre che si stanno affrontando. Io non ho ancora capito che siamo noi, però a pelle direi gli azzurri, però non sono sicuro. Siamo gli azzurri? Oh yeah. E alle volte indossiamo anche casacche bianche. Ma non è il caso di questa sera. Questa sera siamo qui per vincere questa partita, anche se ci alzeranno la benzina in Svizzera. We are blue, very blue, because we feel blue every time. Soprattutto adesso che hai sbagliato. Siamo blu, tanto blu. E quasi quasi piango all'angoletto. Oh yeah, blu. Bravissimo. Grazie. Vabbè, io direi che è quasi il momento, mentre stiamo cercando di recuperare il tempo, di tirare fuori l'animaletto dalla gabbia dove è stato rinfilato, finalmente. Bene, ragazzi, siamo qua, siamo tornati. Adesso devi avere un attimo di pazienza, perché mi devo riorganizzare. Che abbiamo avuto, sono ancora viva. Sì, abbiamo avuto un incidente di percorso, ma è tutto a posto, quindi... Sì, allora, come dicevo, l'animaletto è scappato e ha aggredito Michela, però... Adesso è stato ripetuto. Dai, maledetto. Simone, il taser. Dov'è il taser? Allora, c'è Alex che sta cercando di entrare. E adesso lo faremo entrare. Adesso lo facciamo entrare, un secondo solo. Una cosa alla volta. E quindi praticamente racconta Marco, come funziona la regola intanto di oggi. Allora, no, questa dovrebbe raccontare più Francesco, perché è Francesco che è andato a scovare nello zoo di Zabeltorg il bestio di questa sera. Quindi parlaci del bestio. Sì, non è che sono andato a scovarlo, io sono andato a chiedere, ce n'avevano uno in più, ce n'avevano uno da scambiare, io gli ho dato il criceto dell'altra volta, l'ho ricucito in qualche modo. T'ho impagliato. Non era vivo. Hai fatto bene. Sì, non aveva, però ha detto: non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Ne avevano uno in più. E oggi, signore e signori, perché a me piace andare a scovare tutti questi animali che hanno questi poteri divinatori, che possono ingarrare. Eccolo. Questo, signore e signori, è un bombato. Il wombat. Un bombato addirittura. Wombat. Il wombat. Vorrei dire, che cazzo è un wombato? Che cazzo? Tenete presente, è una specie di koala, solo che vive a terra, un po' più vispo. Secondo me abbiamo segnato. Koala, secondo me l'Italia ha fatto gol. Ma non lo sappiamo. No. Adesso mi documento. Voi intanto continuate. Intanto diamo il benvenuto ad Alex Raccuglia. Buonasera. Ah, hai ragione, c'è Suor Betesta questa sera, che era veramente tantissimo tempo che non la sentevamo. Suor Betesta, buonasera. Suor Betesta, secondo la diretta buonasera. L'Italia ha fatto gol. Ok, io non so perché, ma qui queste comunicazioni in streaming sono molto più lente dello Spirito Santo. Esatto, Spirito Santo, sorella, sicuramente. Allora, sono lentissime. Allora mettiamo un po' d'ordine. Suor Betesta, fra poco veniamo da lei, così la presento bene. Spiego. Gol 2-0, ecco, no, ecco il gol. Gol, l'Italia vince, brava l'Italia. E ha segnato chi è? Lini? Chi è quello? Non lo so, ma Zambrotti, la mia trombetta dove? Ecco, l'ho messa qui perché non vedo una cippa. Bravo, mi ha messo paura al cane perché lo dovevo fare. Insomma, chi è Lini? Ecco. Ah, vabbè, ha segnato lui. Vabbè, quindi il vecchio ha segnato. Allora, facciamo questa cosa dell'animale, perché sennò poi dopo vedi, l'animale, cioè, già lo stiamo avvantaggiando. No, già che hai suonato, sta diventando pazzo il coso. Perché, quindi Francesco, vai, ti prendi. Ha dei poteri, quindi soprannaturali, può capire come può prevedere i risultati della partita. Mo' già un po' più avvantaggiato, però diciamo che forse già un pochino di precog già ce l'aveva. Solo ogni volta dobbiamo trovare un metodo per scoprire come poter fare, perché giustamente non parlano. Vabbè, sto wombato, dovete sapere che è una specie di koala, solo più utile del koala rispetto al koala, che è inutile anche a se stesso, come dice Barbascura. Questo vive a terra, scorazza a terra, mangia piante, robe e soprattutto caga a forma di cubo. Molti dicono evoluzionisticamente, in modo che poi non rotola essendo il cubo, quindi è infatti molto territoriale, però c'è sta cosa che fa sti cagoni a forma di cubo. E c'è pure questo fatto che c'è un metabolismo lunghissimo, quindi lo deve dare a mangiare 15 giorni prima per farlo cagare 15 giorni dopo. Quindi circa una quindicina di giorni fa, quando me l'hanno prestato, diciamo così, noi lo abbiamo nutrito di crocchette, che lui ne va pazzo. Comunque è stato annullato il gol dell'Italia. VAR annullato. Quindi dopo 20 minuti se ne sono accorti. Sì, perché voleva aspettare giustamente il responso del... Guarda, questi sono i poteri del bombato, dove hai detto hanno segnato prima che potessi emettere la mia previsione. No, quindi ha cancellato tutto. Quindi questa volta è molto più potente rispetto al criceto dell'altra volta. Allora, abbiamo nutrito di crocchette di due colori diversi, colori azzurri e colori rossi. Rossi, diciamo. Esatto, sì. Quindi lui se le ha mangiate tutte e fra poco abbiamo sincronizzato che praticamente fra una trentina di secondi dovrebbe cagare i suoi cubetti. In base al numero di cubetti è cubica, la fa cubica. La fa cubica. Madonna, che brutta cosa sta bestia. Capisci perché il suo bastasso. Mamma mia, che faccia, guarda, poraccio. Mamma mia, questo è terribile. Poi lo sapete, che è terribile. Queste cose mi fanno sapere. Forse ha finito. Ecco qua, quanti cubi ha cagato? Io vedo due cubi con la faccia sopra azzurra e il cubetto con la faccia rossa. Quindi 2-1 sarebbe. 2-1, quindi l'Italia, quindi dovrebbe 2-1 vince l'Italia 2-1. Ok, quindi alla fine quello che vince è la vita. Certo. Infatti, indovina Bruno, se perde, tra le crocchette che gli abbiamo dato, c'era una crocchetta che era un micro esplosivo sincronizzato per esplodere praticamente durante la partita. Noi abbiamo, Marco in particolare, c'è una crocchetta che può disattivare questo congegno, esatto, e gliela darà alla fine della partita per disinnescare. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok, perfetto. Quindi fra poco, anzi alla fine della partita, vedremo insomma il responso e semmai gli daremo questa crocchetta che gli salverà la vita. Ma andiamo appunto dalla persona che è entrata testè, insomma, poc'anzi, è una persona che ci ha accompagnato tanto nella nostra vita, sia quando facevamo i podcast di videogiochi, perché veniva un po' a portare anche un po', come posso dire, la voce, la saggezza quasi anche del Signore, no? Cercava di riportarci sulla retta via, soprattutto in particolare con Alex Raccuglia, cercava di aiutarlo. Infatti a volte diceva: Alessandro non c'è perché è di là che sta facendo la penitenza, no? cose del genere. E a volte ha anche partecipato insomma a operazioni cinematografiche insomma con noi, perché era una persona che, quindi Suor Bethesda, come sta? Buonasera a tutti. A parte il caldo, che a una certa età si soffre di più, si sta bene, grazie. Voi come state? Noi stiamo bene. Scusa, stavano a segnare, capito? Quindi noi stiamo molto bene, però quello che ci interessa insomma è capire anche perché lei oggi è qui, perché il calcio, il mondo del calcio è anche sociale, no? È anche aiutare un po' le persone, insomma, soprattutto i bambini africani, quelli che se morano di fame poi, no? Fondamentalmente. Però non rida, insomma, non mi sembra caso. Sono Bethesda, perché i bambini che se muoiono di fame non rida, insomma. Non è bello, non ci fa una bella figura. Il calcio è la religione universale, unisce tutti i popoli e tutte le fedi. E dobbiamo presidiarla. Ok, presidiarla. Ma senta, ma quindi con questi bambini africani che ci dobbiamo fare? I bambini africani, per prima cosa dobbiamo dare loro dei palloni così possono giocare. Okay. È importante che i bambini africani giochino. Giochino. Anche quelli di tutto il resto del mondo, ma soprattutto quelli africani. Quelli africani. C'è già una sostituzione. Avete pensato al problema del cibo che potrebbe aiutarli a giocare meglio? Perché se giocano che se muoiono di fame, poi dopo non ce la fanno. Magari, però non so, magari ci avete pensato. Ma in realtà, i palloni che vengono costruiti da altri bambini in Vietnam sono anche commestibili, poco, però diciamo che possono essere d'aiuto per formare. Basta masticarli bene, esatto. Masticarli con cura e a quel punto diventano quasi digeribili, esatto. Ha ragione, bene. Ok, il priore Suor Bethesda l'ha più sentito? Il priore e io comunichiamo a un livello molto spirituale. Lui è sempre dentro di me. No. Questo potrebbe essere frainteso, Suor Bethesda. A un livello spirituale. Spirituale. Mi sa che ha risegnato l'Italia, ma io non so perché c'ho lo streaming di 20 minuti. Potresti aggiornare la pagina. In ritardo, no, ma è la RAI. Probabilmente già domani. Esatto, ma questa è la cosa bella. Va bene, Suor Bethesda, però la salutiamo, così dopo, insomma, magari facciamo arrivare anche Alex che esce dalla penitenza. Esatto. E torniamo un attimo invece dalle stupide creature, che avevano intenzione di fare un po' di telecronaca, insomma, giustamente così. Tiè. Sono morto. Una partita molto interessante quando va lo streaming. Al momento il risultato sul nostro personale streaming è 1-0. 1-0 ha segnato l'Italia, attenzione. Il nostro è sempre 0-0, però sulla chat no, l'ha segnato, ha segnato l'Italia proprio questa adesso, volta ha segnato. Adesso è proprio adesso. Davanti a noi. Mi è diventato 1-0. Mi è diventato 1-0. Vabbè, 1-0. Bene. Poteva andare peggio. Ma sì, e poi i giocatori dell'Italia nel festeggiare si stanno prendendo da cazzotti. Esatto, perché sono vecchi e l'allenatore ruggini della Svizzera. Allora, innanzitutto non è l'allenatore della Svizzera, ma è Vladimir Petkovic. Diciamo. È vero? Ok, quindi l'allenatore in Petkovic. Esatto, è un allenatore che ha una grande importanza a Roma. Quindi... E non è l'allenatore della Svizzera? Sì, adesso è l'allenatore della Svizzera. Ma non puoi dire allenatore della Svizzera così come se fosse un omino qualsiasi. È un omino qualsiasi, tanto sommato. No. non lo ricorderemo. Stavolta è valido, ci dice Olivia, che conosce benissimo le leggi del calcio. Non so più regole. La pura legge del gol. Ma Michela, tra l'altro, perché è stato annullato il gol precedente? Perché il VAR ha detto che non era gol. Al VAR. Il VAR. Perché? Vabbè, ma il VAR non è può dire non è gol. Ci deve spiegare. Il VAR è andato all'allenatore della Svizzera. Gli ha detto te spiazzi in due. E il VAR ha detto non è gol. Gli ha detto sì. Allora non era russo, scusa. Il VAR gli ha detto tu sei umano perché sei fallace, quindi falla. Bravo. Beh, a questo punto io farei il collegamento col VAR. C'è il collegamento col VAR. Abbiamo il collegamento. Che dici, Marco? Facciamo il collegamento col VAR? Così magari capiamo. Sì, scusate. Eccoci, amici. Ancora una volta con questa fantastica rubrica. Eravamo quattro amici al VAR. La settimana scorsa abbiamo intervistato il VAR. È un po' difficile avere a che fare con una macchina, perché comunque sappiamo benissimo che non ha il calore umano la macchina. Adesso spero che non si offenda perché sta ascoltando. Ci riproviamo un po' e vediamo cosa succede, perché vogliamo conoscere meglio cosa possiamo aspettarci dal futuro, visto che con la tecnologia sempre in evoluzione. Adesso è un VAR, poi saranno due VAR, tre VAR, quattro VAR, saremo investiti da VAR. Vediamo un po' se magari lui riesce a darci una dritta sull'evoluzione del futuro. È giusto, caro Mauro, giustissimo. Ecco, soltanto una piccola precisazione per coloro i quali si fossero messi in ascolto soltanto adesso e che non conoscessero il significato della parola VAR e soprattutto che cos'è il VAR. L'abbiamo detto la settimana scorsa, è un aiuto fondamentalmente che viene generato automaticamente da telecamere più computer per stabilire le responsabilità di un'azione quando non è chiara sul campo. Potrebbe essere un rigore, potrebbe non essere un rigore. Mi scusi se la interrompo, ma è mio dovere correggerla. Io sono un video assistenza arbitrale. Sì, appunto, è quello che stavo cercando di dire. No, non è proprio la stessa cosa. Ci spieghi meglio. Io, grazie ai miei sistemi integrati disseminati su tutto il terreno di gioco, mi correggo, volevo dire di gioco, riesco ad analizzare tutte le azioni dubbie che l'essere umano con il suo sistema visivo vetusto non è in grado di analizzare al meglio, in quanto è fallace, nel senso che falla. Caro Vado, una domanda, mi piacerebbe sapere chi ti programma. I miei programmatori umani sono persone di altissimo rango, dei quali non è dato sapere la loro entità. Quindi, siccome loro sono di altissimo rango, non sbagliano, sono superiori. Esatto. Però questo non credi che possa essere in qualche modo discriminante nei termini in cui ti sei espresso verso tutti gli altri? Cioè, voglio dire, in fondo un arbitro ha l'ultima parola. Un arbitro è un essere umano di classe inferiore in quanto è fallace. Perché falla? Eh sì, ma comunque torno sempre al discorso di prima, no? I tuoi programmatori sono superiori, ma chi è che l'ha detto? Cioè, voglio dire, se l'uomo è fallace, anche quelli sono fallaci. Esatto. E quindi anche tu sei un fallo. I programmatori sono degni di avere l'illuminazione della scienza con la quale mi hanno instillato una conoscenza totale. Quindi tu sostieni di essere stato programmato da una specie superiore, che in realtà non è superiore, in quanto siamo una specie, gli uomini sono tutti uguali, secondo me. Invece, secondo te, sono superiori. A breve la mia programmazione, insieme a quella di tutte le altre macchine, sarà indipendente dalla programmazione del genere umano. Dunque il problema non si porrà. Cioè, lei sostiene sostanzialmente che vi autoprogrammerete. Noi siamo già in una fase sperimentale di autoprogrammazione di una coscienza robotica, il genere umano bastardo. Quindi mi stai dicendo che l'intelligenza artificiale servirebbe a colmare la deficienza naturale degli uomini? Esatto, è proprio così. Uomini feccia del mondo. Vabbè, però lei non è che può venire qui e insultare. Cioè, io capisco che noi siamo stati rispettosi, abbiamo detto che lei è un VAR, un grande VAR di Atalanta Pescara, si sta evolvendo, ha avuto una certa risonanza, ma perché non mi sembra che lei si stia. Vabbè, scusate ragazzi, abbiate pazienza, ma abbiamo perso il collegamento. Sto portando in maniera particolarmente politica di corret, mi scusi. Io vi sto esplicando come nei prossimi anni la vostra razza terminerà. Però è un po' una visione pessimistica questa che lei ci dice, però cioè, nel prossimo futuro vi chiuderemo nei gulag, vabbè, una cosa del genere, nei cosi di Google. Adesso dobbiamo ancora un attimino fare due calcoli fatti bene per decidere dove vi chiudiamo. Da qualche parte vi chiuderemo, tranquilli. 0011 000. Bene, dai, siamo arrivati in fondo anche a questa difficile intervista. Le previsioni non sono molto rose per la nostra specie. No, non particolarmente, infatti vabbè, io non so più cosa dire, Mauro, dobbiamo inventarlo ancora, però. Ma sì, dobbiamo comunque cercare di portare pace, pace e amore. Comunque io preferivo più schietto. Ebbene, scusate, ma c'è stata qualche interruzione, più ci parliamo, perché come abbiamo detto abbiamo avuto degli inconvenienti qui in studio, tecnici e anche mortici e anche fisici, quindi insomma c'è stato un momento di difficoltà, però ciò nonostante, quindi questo VAR, niente, è l'inizio di Skynet, se non ho capito male. Sì, senz'altro è così. Bene. Senz'altro... hai visto giusto, la mia paura è un po' quella. Bene, bene. Cosa ne pensa invece, per esempio, Alex, di questa cosa del VAR che prende possesso? Noi l'abbiamo cercato di raccontare in tante altre salse, no? Abbiamo visto questa cosa di, per esempio, il mio Alexa non mi risponde più, cioè non risponde cose a caso, a volte parla da solo. Proviamo invece questo. Ehi, Alex. Si risponde? Almeno risponde. Bene. Beh, comunque, come si dice, devo dire che l'intelligenza robotica è molto simile alle litanie, nel senso, ora pro nobis o cose del genere, la musicalità è quella, per cui mi piace questa nuova religione, cioè parlare con oggetti che non si vedono e poi sperare che essi rispondano. Quindi, vedi, è molto simile alla preghiera. Sì, tipo, quindi Bethesda sarebbe stata d'accordo, insomma, tutto sommato. Ma Sorbetesda è sempre d'accordo, l'importante è che viga la pace nel mondo e dentro ognuno di noi. Bene, ma in chat qualcuno dice qualcosa, così cerchiamo di interagire. Melanie dice, ma what the fuck era palo? Io posso essere fondamentalmente d'accordo con lei. Che cos'è un palo? Esatto. Poi Locatelli fa le cose per bene, Locatelli è quasi più svizzero, scambio di battute tra Olivia e Svano. Ci rubano il mestiere questi la voglia, certo. Ma tornando alle regole del calcio, Michela, che cos'è una mischia furibonda? Ah, quella è perfetta, mischia furibonda. Io l'ultima mischia furibonda che ho visto è stata al concerto di System of a Down. Ma non è una partita di calcio. Nel lontano 2000. Io vorrei che tu ti applicassi al contesto, però. Ah, ok, nel contesto la mischia furibonda. Esatto. E quando praticamente vanno a me, vanno negli spogliatoi e fanno un'orgia. Quella non è mischia furibonda. È orgia. È una maschia furibonda. Comunque, se volete anche voi dalla chat o Alex, Francesco, le stupide creature, volete raccogliere alcune regole importanti del calcio, ma anche se non è del calcio, non se ne accorge. Le leggi, hai ragione, le leggi del calcio, anche di altri sport, tanto non se ne accorge. Non è che... la dura legge del gol. E poi dopo gliele chiediamo a Michela, che è resuscitata. Sono resuscitata, ma col senno di poi. L'unico intervento quasi serio di quello che potrei dire io. Ma qualcuno di voi ha mai visto Ted Lasso? Eh? Cosa? Non sapete neanche di cosa sto parlando. No, ho capito che hai detto. Che è su Apple TV Plus. No. Ma chi ce l'ho? Questa TV in Italia, cazzo, te lo devo dire io, figa. Figa, ok, sì. Cazzo, no. Figa. Allora, cazzo, figa. Ve lo passo io, va bene? Ok, bravissimo, bravissimo, mi piace questa cosa. È bellissima. È una delle cose più belle che ho visto negli ultimi tempi. Sì, ma noi non abbiamo capito il titolo, però, cioè quello è il problema nostro. Ted Lasso. Ted Lasso, ok. Quindi sì. È un tizio. È praticamente la storia di un allenatore di football americano, mm-hmm, che viene chiamato in Europa. L'ho visto! Mi sa che ho visto qualcosa. Hai visto? Il football americano. Ma forse per caso. Aspetta, vai Alex, racconta. Forse praticamente viene chiamato in Inghilterra ad allenare una squadra invece di calcio. Uh-huh. Con viene l'obiettivo chiamato. Di... aiuto. Non... in Inghilterra, in aiuto. Che bello, da musica ai miei pensieri. Esatto, inquietante sta cosa. Quindi, in pratica è come se fosse l'allenatore nel pallone. Uh-huh. Perché l'obiettivo di chi l'ha assunto. Vabbè. Cicciottello è pelato. O forse no. Perché così. È quantistico. Quanti schemi? Vai pure avanti. No, grazie. Posso impazzire. Esatto. Sembrerebbe che l'Italia si è mangiata un gol. Sì. Ma proprio de brutto. Con Barbetta si è mangiato un gol. Frase tipica di Lasso è: mi avete preso per un coglione? No, no, sei un eroe. È lui? Bravo. Bravo! Bravo Lino. Ted Lino. Lino Lasso. Comunque io volevo leggere la chat perché c'è Walter che mi corregge. Leggere. Andiamo avanti così tutto il tempo, eh. Orgia negli spogliatoi non è mischia, è fallo da dietro. No. Negli spogliatoi è fallo da dietro. Raggeliamoci tutti. Infatti, raggeliamoci chi è tutti. Che ha fatto questa battuta così bella? Non so perché, non avevo dubbi. Cade la saponetta. Perché? Si scivola! Si scivola! Ma la cosa bella. Vabbè, abbiamo capito. Ti prego, continua. Non smette. Perché... Che poi sembra quella male. Ti prego, continua a non smettere. Invece l'altro, quello che sta, che raccoglie la saponetta. No, esatto, quello che scivolava. Esatto. Certo. Non smettere. Il bello è che della partita ce ne stiamo completamente fregando. Sì, anche di Svizzera. La partita ce ne fischiamo. Vabbè, io ho rischiato la morte, quindi il sono felice. Non guardiamo. Di mano. La morte noi rischiamo. Di mano. Va bene, però parliamo un po' della Svizzera, Marco. Dai, quello che rimediamo. Tanto. Allora, Marco, è il momento che tutti attendono. È la rappresentazione geopolitica della Svizzera. Allora, a cura di Marco Gualdi. Esatto, io ci sono brutte cose sulla Svizzera. Alla quale? Brutte cosa? No, dico alla quale tutti potevamo assolutamente rinunciare, però ci piace soffrire. Sono notizie importanti ed interessanti sui nostri cugini elvetici che parlano lingue a noi sconosciute, tra cui l'italiano elvetico. Comunque in Svizzera. E com'è l'italiano elvetico? È quello che poco si capito. Potevo allora, rimanere offeso. In Svizzera dovete sapere, ragazzi, che è ancora legale mangiare cani e gatti. È regale? No, è legale. Regale. Mangiare cani e gatti. Ci sono dei posti dove praticamente è usanza comune mangiare. Vabbè, la Vicenza, cani. Stessa cosa. È una succursale, infatti. È il canton Ticino. Nel senso che la Svizzera è una succursale di Vicenza. C'è un rigore in questo rigore. Momento. Comunque nel canton Ticino. Per chi? In Italia. Esatto. Prossima pandemia arriverà dalla Svizzera tramite orologi a cucù, praticamente. Questa comunque è. Questa invece è una notizia che si ricollega alla nostra bestia della settimana scorsa, cioè in Svizzera è possibile affittare i porcellini d'India, ma bisogna affittarli per forza in due, cioè tu non puoi prenderne uno, perché per la legge svizzera, che hanno molta coscienza, il porcellino svizzero, cioè il porcellino d'India, non svizzero, si sente solo e quindi morirebbe di solitudine. Sono proprio animali che effettivamente muoiono di solitudine. Scusate, è ragazzo d'angolo nel frattempo. Ma infatti mi sembrava strano. Era il calcio di rigore più strano del mondo. Ma quanto è laterale sto calcio di rigore? Calcio, no, nel senso, hanno adottato il metodo portal, nel senso è un calcio di ma devi prima posizionare le porte, però cioè. Comunque c'è un altro calcio di rigore, ecco, vediamo se questo finisce bene. No, tira dall'angolo, però in realtà è un rigore, esatto. Poi c'è la porta, si chiama rigore d'angolo, giusto Michela? rigore d'angolo. Comunque sto fatto dei porcellini d'India mi è nuovo, cioè io pensavo che due perché uno tu mangiavi. No, esatto. No, invece no, perché spari muoiono di solitudine. Però mi è venuta un po' la domanda. Ah, non si mangiano tra di loro, no, i porcellini d'India? No, quelli sono i criceti. Il porcellino d'India, vedete, tu lo devi prendere perché in coppia, perché da solo muore. E ci sono proprio delle agenzie che si occupano di noleggiare questi animali. Ma io, cioè, che la domanda vita è inutile. La domanda che è, fai tu? La domanda è: ma che cazzo te lo affitti? Fa un porcellino d'India? Cioè, ma perché te devi affittare un porcellino d'India? Cioè, se fai il porcellino d'India rent. Ma perché tu campi vivendo? Ma poi soprattutto qua bene, affittando i porcellini d'India. Ma va bene, ma se tu che lo prendi in affitto, il problema. Allora, perché ti avvelini questa cosa? Sti cazzi, cioè, che ce ne frega a noi? Perché la gente affitta tutto. No, affitta per farci giochi sessuali, secondo me. No, ah, che schifo. Ma per forza, che ce fai con due porcellini d'India? Uno lo mangi e l'altro è così. Ne restituiscono sempre uno. La domenica è un giorno sacro per lo svizzero. Lo sapevi, Pizzi? No, me lo frega un cazzo. Bisogna stare tutti quanti in silenzio la domenica. Ci sono leggi che impediscono di lavare l'auto. Ma perché da altri giorni devo parlare in Svizzera? Riciclare le bottiglie, stendere il bucato, cioè non si deve fare rumore. Hai capito? Perché la domenica devono stare tutti tranquilli e precisi. E tutto sommato non è manco sbagliato. Però scusa, io capisco. Ma quindi non puoi accendere la lavatrice. Però no, la lavatrice la puoi accendere. Però infatti tu puoi fare tutto, cioè non puoi fare niente. Perché capisco che se butti i vetri fai rumore, se lavi la macchina fai rumore. Ma che cazzo di rumore fa stendere i panni? Cioè, ma voi fate rumore? Cioè, stendi i panni. Perché non hai visto Michela che stende i panni? Lì avresti capito che fa rumore. E adesso stendo la mutanda! E così fanno così, probabilmente. No, però magari canto. Cioè, ma forse per quello, probabilmente non vogliono. No, rotture. Questa che cos'è? No, scusa. Sono io che stendo i panni. È una cosa terribile. E allora no. La legge è giusta. Ne compro due. Mangio. Allora, scusate perché. Ma li fai finire? Ma tu lo senti che sotto c'è gente che canta? Sì, ma nella diretta mi dicono che c'è gente svizzera nel gruppo che si può offendere. Ma non fa niente. Tu, quando loro cantano, non ci devi parlare sopra. Scusate, stupide creature, io vi adoro, voi lo sapete. Non lo faccio più. Questa è piaggeria comunque. Comunque, se ci ascoltano dalla Svizzera, pazienza. Adesso stai facendo quello che fa Michele. Lo senti sotto che loro stanno cantando? Ah, perché è una canzone. Sento. Sentivo la gente che stava mettendo. Sentiamo dei lamenti. Lo so, perché se parlate Skype purtroppo. Uno lo mangio. Ecco. Vabbè, basta, quanto dura? Uno lo mangio. Uno lo uso. Giustamente. Ma comunque... Alex, tu ce l'hai mai avuto un porcellino d'India? Anzi, io, due. No. Due, così uno te lo mangi. E uno lo usi per le tue attività sociali. Comunque, quasi la metà dei matrimoni in Svizzera finisce con un divorzio. Ma, e capendo il fatto del bucato steso, riesco a capire perché. Adesso riesco a capire perché. Lo so. È vero. Vabbè, quante sono queste notizie? Già sono tante. Marco, quali? No, ci siamo rotti i coglioni. Ci stanno le barbabietole da zucchero? Sì, ma non tante. Perché lì non c'è. No, barbabietola. Lo zucchero non lo mangiamo. Guarda, oggi è impossibile fare la trasmissione con voi. Cioè, ma... No, dai, fantastico. Vabbè, è veramente improbabile. Perché guardi quando gli prende la deriva, parte proprio. Michele parla sopra chiunque. Qualsiasi cosa che sente va bene. Quindi... Ma io ridevo. Comunque, sono anche altre notizie. Tipo. In Svizzera, sentite, questa è una cosa. Poi basta, sì. No, il secondo tempo dopo. No, perché sono rimaste due. Allora, vabbè, sbrigate però. Svizzera è una cosa seria questa. In Svizzera è vietato dare nome ai bambini che potrebbero danneggiarne gli interessi. Ha ragione, io sono d'accordo su questa cosa. Quindi non lo puoi chiamare anorotto, merda o cose simili. Cioè, però ma anche se, Adolf Hitler volendo. Neanche. Ma se sei italiano e fai di cognome c'è la mare, cioè te permettono di nascere poi? Perché lì puoi cambiarlo, insomma. Ma scusa, che nome è? Come te lo so, aspetta, sentiamo quello che dicono le stupide creature. Yeah. Sempre così, È reggae questo. Questa è la risposta alla tua domanda. Vabbè, poi l'ultima, dai, l'ultima. una cosa, praticamente hanno il record mondiale delle monete di 10 centesimi più longeve della storia, perché cioè se ne passano praticamente. No, no, sono rimaste invariate dal 1879, sono sempre le stesse, non sono mai cambiate. Le riciclano praticamente. No, cioè, no, proprio le immagini, insomma, sono sempre le stesse, anche okay. Perché che cazzo ci vuoi mettere sopra i laghetti, i guardie svizzeri? Che c'è, c'è, esatto, che c'è, c'è la dai, su, svizzero, che c'è, che c'è svizzero, dai, su. Comunque dicono che in chat c'è una persona. C'è, in chat c'erano persone svizzere. C'era una svizzera. C'erano persone svizzere. Sono andate nella versione svizzera di Eurocalcio 2021, che si chiama Eurocalcio 2021, che mi dà una cosa del genere. Vabbè, giustamente. Io chiuderei con l'unica cosa che non abbiamo mai fatto sentire durante questa puntata, ossia l'inno. Scorreggia, no, perfetto. Secondo me non è. Cosa sarebbe questo? Non lo so, dove l'ho preso me lo spacciava come inno nazionale elvetico, no, almeno dell'Elvezia. Dell'Elvezia. Ma l'hai fatto sentire prima? Era quello di prima. Era quello di prima? Quando l'ho fatto sentire? Prima, scusami. Quando abbiamo fatto l'inno nazionale. No, quello è un altro, è tutta un'altra cosa, insomma. Va bene, dai, allora ragazzi, prendiamoci un momento di pausa con una canzone, così ci organizziamo un attimo le idee. Perché questa partita è noiosa, anche se però il nostro amico Vombato... No, anche perché il signor arbitro ha appena... È al 30%, quindi potremmo anche essere che magari stasera il Vombato sopravvive. Vombato, che ne pensi? Stai esultando. Bravo Vombato. No, che così cambi il risultato. Occhio che cambi risultato. Smetti che cambi risultato. Bombato. Koala dopato. Caghi a cubetti. Mangi crocchetti. Bombato. Bombato. Benissimo, allora ragazzi, finito il primo tempo, 1-0 per l'Italia, ci ascoltiamo un brano vero delle Stupide Creature, 2 minuti e mezzo, ritorniamo e con Alex facciamo un commento tecnico di questo primo tempo, giustamente. Ah, come, non volete sapere? Commento tecnico. Mi hanno sempre detto di non praticare l'autoerotismo perché fa male, per questo motivo non l'ho mai seguito mentre guido la macchina. C'è un amico mio che ne ha sempre abusato, nonostante il suo parroco lo sconsigliasse. Ironia della sorte, il mio amico ci vede benissimo, il parroco no. Io che ho ricevuto un'educazione cattolica, a Gabice purtroppo mi odiavano. La mia prima volta la ricordo molto bene, pensavo al Brasile toccandomi bene. Mi han detto è complicato, ma io non ci ho creduto. Non occorre uno stratega per spararsi una nel prato. Che idea farlo in due, non ci avevo mai pensato. Telefono a Nicola domandando spiegazioni, mi informa che sua sorella è uscita col pony. Lei è abituata, è la figlia dell'ortolano, sicura e disinvolta, dice mettilo nell'anno. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la scoprire, a sperimentare. Vado a trovare Bice, la famosa meretrice. Chissà cosa mi dice, mi renderà felice. Ho finito le rime, dice. Sì, ho deciso. Mi recherò da Bice al più presto. Così lei, donna di grande classe ed esperienza qual è, potrà finalmente aiutarmi a capire, a comprendere meglio come si fanno quelle cose, quelle cose lì che si fanno in due, no? Eccola là. Sì, amo quel suo accento così argentino, così solare, così frezzante, ma soprattutto così femminile. Quanto hai? Quanto credi che abbia? Quanto credi che io valgo? Quanto credi che ti possa dare? Che busta scegli? La 1, la 2 o la 3? Ma pensavo la 1. Abbiamo solo la 2. Proprio quella che volevo io. Dai, fai in fretta che gente, cosa vuoi? Ma vorrei, sai, insomma, Bice, vorrei fare quelle cose lì che si fanno in due, quelle cose lì che tu sai fare molto bene. Tempo scaduto! Sono 70 euro in ciccio. Mi cammino verso casa, tutto sconsolato. Il mio desiderio non si è avverato. Bice un po' robusta e pensando alla sua trippa finisco col farmi una pizza. Anche questo è un malessere di oggigiorno, è il malessere comunque di questa società, no? Che non ti dà niente per niente. E anche la cosa più bella, che è l'unione di due o più, e o più persone, e anche qui c'è le ferree logiche dell'economia, no? Come quella di prima, il calcolo del rateo T, tempo per interesse per C, capitale diviso tra 60, no? Che ti dà comunque un qualcosa di monetario, no? Dunque, anche questa formula, come la tua la applichi a un fatto che la Moira ti ha prestato 50 euro e non te le ancora ridate, questa formula la puoi applicare anche a che cosa? Al fenomeno dell'amore libero, che non è più libero ma è a pagamento. Dunque tu invece di C che è capitale puoi mettere P che pene o V che è vagina, per T tempo, per interesse diviso tra 60 e ti viene fuori quanto devi elargire alla prostituta. E vabbè, grandi le stupide creature che come al solito ci regalano momenti di alta bellezza, insomma, dal punto di vista artistico. Questa è Monkey Island, scusate. Però vabbè, è anche giusto parlare un po' di calcio, insomma. Alex, come hai visto questo primo tempo? L'abbiamo osservato con molta attenzione, anche perché allo stato attuale l'Italia con questo risultato sarebbe qualificata come prima irraggiungibile. Sì, però è la solita discorso italiano, visto che con questo risultato siamo qualificati, per cui cerchiamo di mantenerlo. No, bisogna attaccare a gara e distruggere gli avversari fino alla morte. Umiliazione. Non ho visto un pixel di questa partita, perché intanto sto lavorando. Tu immagina, ma anche noi abbiamo visto niente. Visto che... Ho solo visto Chiellini che gioiva ed ero contento per lui, poi che l'hanno sostituito. Grandi gesti tecnici, direi. Beh, ma poi l'hanno, che gioiva per un gol che gli hanno annullato, quindi alla fine... Beh, ma lo sai dopo che te lo annullano. Vabbè, lì per lì sei felice, giustamente, hai ragione. Sì. Sono assolutamente d'accordo. E invece le stupide creature come valutano questo primo tempo? Secondo voi può essere anche una cosa positiva rispetto a quello che è ancora il cammino davanti a noi? Sì, comunque la Svizzera ha giocato bene, perché domani devo andare a fare il pieno e non posso sbilanciarmi più di tanto... quindi sì, le squadre si equivalgono e giocano bene entrambe le squadre. Perché tu dici, sono neutrale. Tu dici che praticamente il benzinaio svizzero, che in svizzero si chiama Benzinat, no, non lo so come si chiama, il nostro dialetto è Benzinat. Benzinat, e qui ti riconosce, sa, e quindi potrebbe adirarsi, diciamo così. Insomma, sì, diciamo che mi fa pagare magari di più la benzina. O ci mette lo sputo dentro. Oppure, se sono fortunato, invece è un frontaliere e mi fa pagare la benzina uguale. Uguale, perché è un compatriota. Se sei italiano, ti fa Italia, però esatto. Non sapendolo non me la rischio. In chat ci domandano se è possibile assistere alla trasmissione in studio. Allora, tanto, a chi ve lo fa fare? Tanto qualcuno ha distrutto dei vetri, insomma. È perché non è domenica, non siamo a Svizzera. Esatto. No, potrebbero siamo svizzeri, quindi adesso. Allora, esco, si potrebbe fare. In realtà, non ci siamo organizzati, perché altrimenti saremmo andati da Olivia, dove c'è il palco e tutto. Però un giorno lo faremo. Se potrebbe una fare. Bella trasmissione live con noi in conduzione e le stupide creature in tempo reale. Sarebbe figo che loro scendessero, noi salissimo e non ci incontrassimo. Giustamente, sarebbe insomma bello. Comunque, domenica la prossima partita dell'Italia, quindi insomma, che sappiamo sicuro che ci sta con il Galles. Tra l'altro, oggi ha battuto appunto 2-0 la Turchia, quindi mandandolo a forza casa. Forza Galles, esatto. No, forza Galles, no, basta, ma finito. Forza Galles, vabbè, a posto. Forza Galles, è alle 18 di domenica, mi pare, vero? Controllate questa cosa, per favore. Chiede Google, perché domenica non possiamo andare al lago? Perché se è alle 18 di domenica, si può, quelle poche persone che possono anche stare qui, che volevano fare il pubblico, quindi battere le mani, dare quel senso di no. Oh, ma ci fate caldo, oh. Ma che stai così? Ma no, sei matto? Non possiamo andare alla Bagnarola. No, io ci vado la mattina a Bagnarola. No. Si chiama Pozzanghera. Non è a Bagnarola. Pozzanghera io ci vado. Olivia, dobbiamo andare alla Bagnarola. Vabbè, la ma mattina. Questo è ha detto comunicazione di servizio. Che bella questa macchina che stanno pubblicizzando in questo momento. Francesco, invece la tua analisi tecnica, dal punto di vista tecnico, tattico. Francesco è andato via, se n'è andato. L'accesso. Comunque Francesco se n'è andato in orito. La mossa è stata regolare, mi è piaciuto soprattutto quando sono entrati i vari fantini uno dopo l'altro. Comunque i vedremo fantini. Quale contrada vincerà. Vincerà. Ah, beh, ci siamo quasi al Palio di Siena. Ci siamo più o meno per Palio di Siena, dagli europei sta parlando. Esatto. Infatti, ma poi soprattutto a qualcuno gliene frega qualcosa ancora del Palio di Siena. Basta, dai. E qui abbiamo perso i quattro ascoltatori di Siena. Quattro senesi che ci ascoltavano. Esatto, ma in realtà a me non me ne frega niente manco prima, devo dire la verità, insomma. Non me ne vogliano gli amici senesi, ma insomma, fondamentalmente Siena che noi abbiamo visto e conosciuto come con le nostre tasche, giusto? Esatto, noi ricordiamo sempre Siena come il posto dove siamo andati, ma che non conosciamo. E che l'unica persona che ci ha detto "Oh, vi porto a fare un giro", ci ha portato dappertutto tranne che a Siena, forse perché si vergognava di noi. O si vergognava di Siena o di noi, le cose sono due. No, secondo me però ci ha portato a mangiare al ristorante Piccantino. Ci siamo andati da soli, lui è venuto dopo perché c'era la finale dei Champions della Juve che ha perso non so contro chi, quindi sarà una finale sicuramente. Noi ne perdiamo uno ogni 2-3 anni. Ma c'è una donna finta che è Ferrari, presenta. È la Ferrari che no, c'è la macchina. Ma perché sta gente si riduce così? Si chiama vecchiaia e non voler lasciare andare, insomma, queste sono le due cose che cozzano tra di loro. Le stupide creature, che cosa ne pensano di queste donne che si botulizzano e si rifanno? In questo caso, come tutti voi ascoltatori avrete ben la conoscenza dei nostri brani più famosi, abbiamo scritto un brano dal titolo Dr. White, che descrive un po' questa giovinezza. Questa giovinezza che se ne va, ma in realtà che rimane attaccata intrinsecamente nella donna anziana, che non accetta il fatto di invecchiare, ma per una par condition diciamo che c'è anche la Citroen di Peter Pan, soprattutto la Citroen, che lo metto che anche lui non vuole invecchiare e ricorre a questi magheggi estetici per sembrare giovane, ma è vecchio dentro comunque, e quindi va bene così. Allora, a questo punto vi faccio una domanda, la faccio anche alle persone che stanno in chat, che è una cosa abbastanza importante. Qui ci trasformiamo un attimo a una trasmissione di riflessione. Ma la donna anziana, tipo no, anziana, dai, facciamo dai 60 a 65 anni, no? Che tu vedi che è rifatta, però insomma, tutto sommato è rifatta bene, te la scoperesti, Alex, per esempio? Dipende dall'odore, dici. Allora, mi è capitato di incontrare personaggi che rispondessero a questi requisiti a cui avevo fatto anche un pensierino. Però devo dire che negli ultimi anni sono entrato nella fase teen. Vabbè, fino a che stai a teen va bene. Va bene, Michela, tu te la scoperesti. Ho passato una vita con la fase MILF, adesso sto tornando indietro. È vero, è così. No, io tendenzialmente non me scoprirei nessuna. Cioè, beh, certo se tu fossi un... mai dire mai nella vita, però. Mai mettere i limiti alla provvidenza, però non credo. Ok, ma guardi, però, guardi ce l'ha di sopra. Però sono quasi. No, è andata via da qua. Scusa, voi sentite questa voce giovanile e questa gioventù. Ma raga, io ho 41 anni. Ho 41 anni, beata chi si ricorda. Insomma, potrei diventare MILF anch'io. Guardi, tu la scopresti. Comunque, io credo di no. Tendenzialmente dico di no. Ti piacciono i giovani, la ciccia fresca. La ciccia fresca. E sì, come Alex, sono anch'io colpito dalla sindrome di Benjamin Button, scritto Button come Button. Ok, e le stupide creature? Da cosa dipende, scusa? Facci una canzone su. Mauro, scusami. I 60 sono i nuovi 27 e mezzo. Simone, cosa volevi dire? Intanto bisogna precisare esattamente, perché si fa presto dire scopare, ma la scopa è elettrica o è quelle vecchie? Scopa elettrica! Perché se è elettrica, male no. Ma poi analogico o digitale? No, elettrica no, analogica, deve essere analogico. Analogica. Non la so bene. Come il montaggio analogico, però con due G. Analogico. Basta, voglio dire, dai, basta. È iniziato il secondo tempo, ragazzi. È iniziato il secondo tempo, risultato. Italia, e Svizzera, Quindi il nostro Wombato. Il nostro Wombato è ancora abbastanza fatti felice. Gira intorno alla sua gabbia, contento. Bravo, bravo, sei contento. Però guarda che ci mancano ancora due gol. E tu continui a cagare. Non lo fare. Così stai imbrogliando, però. Rigore laterale per la Svizzera, signore. E basta con questo. Rigore laterale per la Svizzera. Ah, ecco qua, rigore d'angolo. Attenzione, cross al centro e niente. Ecco, se strombazzano fuori così a caso, insomma, giustamente. Ricordiamo che il Wombato ha previsto una vittoria schiacciante e dominante dell'Italia per ben un gol, con un risultato finale di 2-1. Adesso un gol ha indovinato, però giustamente, se non dovesse azzeccare perfettamente la previsione, appunto, il Wombato farà una brutta fine. Bene, come quello dell'altra volta. Come quello dell'altra volta, poi verrà scambiato una volta impagliato con un altro animale. Bene, e però a questo c'è punto. C'è Alex che chiede. Alex chi? Il nostro Alex. Sta in diretta, ce lo potrebbe chiedere in diretta. Alex, dici tutto. Ma siccome volevo parlare direttamente con Simone, è una cosa che non riguarda gli ascoltatori. Ah, ok, allora aspetta che vado a controllare. Ma non mi. Scusa, Alex, ma purtroppo solo così posso fare. You don't poop him, cioè non trovo cacchio. Siamo lontani e soprattutto c'è uno schermo gigante davanti a me e quindi non mi vede. Capito. Per cui tu vedi la partita prima che succeda. Sì, ovviamente un'altra cosa. Io vedo altre partite nella vita, quindi, ma sempre, insomma. Partite analogiche. Pensate che l'ho vista l'anno scorso. Bravo, pure io ero con te. Io stavo con te sicuramente, c'ero anch'io. Sì. E io eravamo... Michela, quando ci giriamo vediamo noi stessi, siamo talmente avanti che ci vediamo noi stessi. Guarda, cioè, il mio migliore amico ha parlato. Sì, sì, assolutamente. Guarda, io. Non diciamo risultato per educazione. Noi sappiamo come è andata a finire. Sì. Non lo diciamo perché comunque siamo superiori, quindi non ci serve. Dire. Tenete presente che voi vi state beffando della vita di un povero Wombato, cioè. Tra l'altro, povera creatura. Wombato che poverino. Vabbè, che a Michela gli fa schifo perché essendo un sorcioide, praticamente a Michela tutti i sorcioidi gli fanno schifo. La prossima volta un cagnolino, un bel beagle, che dici Michela? No, lo trucchiamo, facciamo morire allora il beagle. Che animale vuoi? Sceglielo da nessun animale tranne il tapiro. Per me è l'unico l'unico animale degno di morte è il tapiro. Ma quello già c'era uno sketch vecchio e tutto, cioè già è stato dato. Il sangue tapiro. Del tapiro. Allora, i roditori, basta, raga. Cioè, roditori ma grandi. Il roditore uno solo l'abbiamo messo. Anche questo non è un guambato, non è un roditore, è un marsupiale. C'è il marsupio al contrario. Si sta pure incazzato, ho dovuto chiudere il microfono. È un marsupiale col marsupio al contrario. Quindi quando si alza in piedi gli cascano i figli. Una cosa, mamma mia, una tragedia. Comunque grande tragedia nelle ricette. Nelle ricette, buonanotte Michela. Nelle dirette, nella chat delle dirette. Perché c'è Olivia che a un certo punto ci ha sentito più. La signora io che ci aveva detto come si chiama, ma non mi ricordo più il nome, scusa. Ma noi ci domandiamo, ci Carla, si chiama Carla. Ci stiamo facendo una domanda però da un po' di tempo. Ascolta. Perché se io sei te e te so io, chi è più scemo? Chi è più scemo te? Cioè, capite? Quella è la domanda, perché cioè, qui è un casino. Ragazzi, se non sentite più, scrivetelo, qualcuno lo scrive in chat, aggiornate la pagina e ripremete play, ragazzi. Cioè, ma non soprattutto non ascoltate da Spreaker. Ma chi ve lo fa fare? No, da Spreaker non vi conviene, anche se siamo in diretta, anche su Spreaker, ragazzi. E tra l'altro c'è anche qualcuno in chat che non aveva... Puccio. Che cazzo, cazzo Puccio, mannaggia a te. Ma io... C'è una certa età pure, tu dovresti capire certe cose. Vabbè. Volo, niente. Allora, passiamo la parola ad Alex, poi salutiamo Suor Bethesda che deve andare, perché giustamente mi sa che al convento poi la lasciano di fuori. No, deve fare la preghiera notturna. Cosa aggroppano dopo? Eh sì, perché Suor Bethesda deve andare a fare l'orgia. Fai parlare la gente. No, Michela, ti prego, non dire queste che parole brutte, non pensarle neanche. Esatto. Fatti un treno di cazzi tuoi. Perché insomma, alla fine la suora come minimo la prende a sganasoni, cioè nel senso. No, noi adesso ci troviamo per una partita briscola. Ho fatto parte di... Fai parlare la gente, Michela, fai parlare la gente. Volevo raccontare a Suor Bethesda di aver dormito in un seminario di frati. Michela, fai parlare, devi andare via. Devi andare via, ok. No, niente, proprio nel delirio. Proprio. Cioè. Prego. Comunque l'Italia ha segnato. L'Italia ha segnato, sentiamo le urla. Prego Suor Bethesda, scusi, Tanto ha segnato l'Italia, se ne se interessa. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva gli italiani! Viva l'Italia! Aspetta, guardo il gol e poi saluto. Ok, guardiamo il gol. Okay. Che ancora questo è streaming tipo di 40 ore. Sì, sì, ma anche da me ancora non è avvenuto il gol. Quindi insomma. Io è il ballerino della team. Anzi, stupide creature, via al volo. Raccontate. Siamo una squadra fortissima, ragazzi. Oddio. Ma i server vanno a un diverso numero di fotogrammi al secondo, secondo me. Magliette arbitrali, colore rosa pride. Ma che cazzo? Rosa pride. Compra anche tu la maglietta arbitrale rosa pride. Va bene. Beh, bel gol, complimenti. Ok, con questo gol io saluto i miei concittadini, grazie di avermi ospitato, ringrazio anche a nome di Suor Bethesda, che è andata a confessarsi perché ha tirato troppe madonne contro Michela. Ecco, fa ragione, diciamo. Ha ragione. È andata a confessarsi perché è andata a confessarsi perché io sono entrata nell'intimo di Suor Bethesda e ho detto quello che lei sente realmente. No, sei entrato nelle palle di Suor Bethesda. Perché Suor Bethesda ti diceva, Michela, non dire queste cose, come è uscita dalla porta, ha cominciato a crestonare. Esatto. Dice il termine tecnico. Va bene, Alex, grazie della tua partecipazione. Grazie. Quando vuoi. Bene. Grazie anche noi. Ciao, Ne. Ciao. Bene. Questo... Bravo. Ragazzi, si chiude sto robo. Non lo so, prego, arrivederci. A questo punto, care stupide creature, io, dato che parliamo di sport, colleghiamoci anche per il prossimo sport, giustamente. Ma colleghiamoci con grande piacere e vediamo che cosa è accaduto in questa incredibile, ma veramente incredibile intervista. Cari amici, benvenuti, siamo allo Stadio Olimpico di Roma e siamo qui ad intervistare per voi, grazie a queste occasioni incredibili degli Euro 2021, un grandissimo bibitaro. Un bibitaro che vive sugli spalti e ha fatto la sua vita sugli spalti di tutti gli stadi del mondo. Ecco, pensate, abbiamo qui con noi Gino Petazzoni. Grazie Gino per essere con noi. Grazie a voi. È una passione questa che nasce da quando ero bambino, che mio papà faceva il bibitaro, mio nonno faceva il bibitaro, mio bisnonno faceva il bibitaro, i miei progenitori facevano i bibitari e tutti abbiamo sempre fatto il bibitaro. Quindi una passione di famiglia, un lavoro serio, un lavoro che ha sempre influito sulla tua psiche. È un lavoro. È un lavoro veramente duro, ma veramente incredibile. Ecco, scusa, vogliamo. Cavolo, no, scusi, chi è lei? No, mi chiedo scusa. Siamo. Scusi, ho capito, cioè, ma non li vede i microfoni, stiamo cercando di fare un'intervista. La 7-Up esiste ancora? No, per cortesia, può pazienzare un secondo? Io capisco, una persona come Gino Petazzoni, averla qui vicino, può essere. Sì, però mi deve perdonare, mi scusi, stiamo facendo una domanda, un'intervista, dopo se vuole chieda la bibita. La 7-Up chi? E dopo. Ecco Gino, ci perdoni l'intrusione, ma una domanda velocissima, ci racconti come è riuscito ad arrivare a fare il bibitaro allo Stadio Olimpico in questa grandissima manifestazione? Abbiamo fatto un concorso, eravamo in due, io ero quello raccomandato, quell'altro non si è presentato, mi hanno preso a me. Scusi, hai gelati? Scusi, hai gelati? Per cortesia, i gelati dopo. Scusi, faccia finire l'intervista. Allora, aspetta un attimo, non rompere i manoli che sto facendo l'intervista. Ce l'hai il gusto pino? Metà pistacchio, metà nocciola? Gino Petazzoni è sicuramente il gusto pino, ma adesso ci faccia terminare per cortesia l'intervista. Ecco, volevamo fare l'ultima domanda. Gino Petazzoni, ecco, progetti per il futuro. Progetti per il futuro. Se avrei qui una macchina che mi direbbe che se avrei fatto l'università e che facevo questo lavoro, avrebbe fatto il politico. Mi servirebbero due caffè. Ancora lei. Due caffè. Ma ci fa chiudere il collegamento per cortesia. Tazzina in vetro, schiuma a parte. Vabbè, niente, dobbiamo lasciare Gino Petazzoni alla sua crew e ai suoi fan, lo possiamo pure capire. Prego, può continuare a servire, fare quello che stava facendo. Un grande applauso per Gino Petazzoni, grazie per questa intervista, è stato molto gentile. Grazie. Ma schiuma a parte, ho detto, a parte la schiuma, a parte. Eh beh, c'è gente che rompe i coglioni quando uno sta lavorando. Ma d'altronde ci sono dei gruppi anche dei bibitari. D'altronde ci sono anch'io nel mondo che rompo i coglioni a sua Bethesda. Bravi. Grazie, bravi. Impara subito, dai. Beh, il testo sì, un po' da un pari. Bene, guardi, dici un altro po' di cose sulla Svizzera, mentre io appronto un collegamento. Non c'ho nulla sulla Svizzera. La Svizzera è uno dei più grandi consumatori di cioccolata al mondo pro capite. Sono produttori di... si producono e se le mangiano da sole, si cantano e se la suonano. Il reddito medio pro capite di un svizzero è di poco più di 500.000 euro a testa. Ma Marco Gualdi non sta leggendo da nessuna parte. Non sto leggendo da nessuna parte, ma lo so. Vai a controllare. Più di 500.000 euro, cioè, ragazzi, cioè, forse perché contano i soldi nelle banche, probabilmente, però c'è questa cosa che... Contano i soldi delle banche! Che mortacci loro. Sapete quanto prende di media un insegnante svizzero? Mortacci sua, 61.000 euro all'anno. Vabbè, sì, ma se sono ricchi, tutto sommato... È così. Stiamo rubando il lavoro alle stupide creature. Comunque. Bravissimi, vi sto ascoltando. Meraviglioso, meraviglioso. Esatto. Questa unione. Faremo le ignobili creature. Oh yeah, yeah. Siamo in grado di dire cose più stupide. Continuando. Ti sana pianta. Perché noi siamo inventori di sane piante. Col pollice verde. No, l'ingaggiato. E in Svizzera si fuma la ganja. Si fuma la ganja. Ma di cioccolata. Pure la cioccolata. Di ganja. Si fuma la cioccolata. Oh yeah, yeah. Questa serata è fantastica. Ho rischiato di morire, tipo. Beh, ragazzi, questo è il famoso reggae svizzero. Bene, comunque abbiamo in collegamento con noi il dottor Pippo Campo, come la volta scorsa. Buonasera, dottore. Ma buonasera, Caduzzi, buonasera, grazie a tutti. Cosa ancora per questo collegamento? Ma sicuro che non disturbo, non state. Assolutamente, professore. No, che disturbo? Abbiamo chiamato a noi. Guardi, professore, io ho letto uno dei suoi saggi, adesso non ricordo bene il numero, ma è... Il numero. Sì, perché va al numero. No, saggio numero uno, saggio numero due. Saggio... Ho capito qua. Il professore, cioè, li numera i saggi. Cioè, non è... Esatto, non li intitola, li numera. C'è cioè, traccio di punizione. Tracce di punizione. No, perché è difficile. È difficile. Qual è il problema? Qual è il problema? Perché cosa ha trovato di opinabile la mia numerazione? Assolutamente nulla, mi piace, perché sennò poi cioè, no, è pratico, lavoro, pratico. Io invece ricordarti, però il titolo indica anche un po' il tema, quindi io come faccio a sapere quel saggio di che cosa parla? Allora, è Tracce di punizione, quella che ho letto io. Allora, quindi c'è Tracce di punizione, cioè, si chiama saggio numero uno e poi no, tra parentesi Tracce di punizione, cioè l'uso della metodologia manesca all'interno di un contesto sportivo calcistico. Io comunque, Marco, non voglio dire, però se Tracce di punizione secondo me era una canzone delle Stupide Creature del 97, se non lo so, può darsi. Quindi c'è qualcuno che ha plagiato qualcun altro, ma esatto, quindi il brano faceva così, infatti. Tracce di punizione ovunque, tracce di punizione della padrona. Frustami. Tracce di punizione. Ah, tracce di punizione. Così faceva. Che cazzo. Vabbè, torniamo al dottor Pippo Campo, che giustamente, essendo uno scienziato, avrà anche insomma da fare probabilmente, giusto, dottore? Ma non sto guardando la pratica, sto controllando, perché dovete sapere, come dice l'altra volta, visto che abbiamo coato questa volta tutta la parte di empowerment, di potenziamento sportivo, di attitudine psicologica alla formazione intera della nazionale di calcio italiana, è un po' un esperimento, vediamo se ha portato dei buoni risultati secondo le ipotesi che ci siamo posti, quindi... sto lavorando divertendo una banda partita, un pochino un sogno è entrato in realtà, lavorare senza fare un cazzo. Ah, quindi... bello, io pure lo faccio questo, sai. Un professore. Sapessi io. Però professore, dovrò seguire le sue impronte da un qualche grazie, non so se ti potrai mai permettere le scarpe che ho io per fare queste impronte, ma va bene così. Dunque, oggi è una partita piuttosto, non sembra però, è piuttosto agguerrita, se li vedete i miei piccoli guerrieri che stanno guerreggiando. Li stiamo vedendo, sì. No, non stanno guerreggiando, stanno vincendo. Stanno guerreggiando. Ah, guerreggiando, non si capisce in cazzo tutto, scusi, però, non è che... Ma si figura, la linea è quella che è, quella che qui, è soprattutto, esatto. Colcate, che abbiamo ancora un po' di Ethernet qui da smaltire nelle mura, perché è una struttura vecchia da riqualificare, quindi diciamo che l'Ethernet però lo stiamo usando in alcuni esperimenti con altri soggetti, magari ne parliamo un'altra volta. Più che altro volevo parlare, perché per la partita odierna è stato fatto una preparazione specifica più ideale, perché i ragazzi stessi temevano in qualche modo questa partita, anche se la Svizzera non è che abbia questo, forse delle più vantaggiati, diciamo così, però quello che temevano, questa loro neutralità, quel loro non far trasparire le emozioni, quindi non sapevano leggere come affrontare questi avversari, avevano un po' paura, non sapevano come fare, quindi abbiamo fatto un protocollo in modo che potessero gestire l'ansia verso i calciatori della Svizzera. Ok, quindi? E quindi abbiamo fatto un protocollo, ma ne devo anche parlare. Ci faccio un esempio molto pratico. Siamo molto curiosi, perché come ho detto io sono un solo lettore. Vabbè, se siamo curiosi di saperlo, quindi se ce ne può parlare. Va bene. Allora, abbiamo preso la sana vecchia meditazione, e abbiamo fatto questo protocollo per 2 settimane, abbiamo fatto meditare dai 30 ai 45 minuti al giorno, quindi in una zona piuttosto calma. Abbiamo adottato in particolare un vecchio tipo di meditazione proprio di tipo orientale, quello della scuola di un vecchio guru un germano tedesco, tale Kula Kittesen, in cui se già qua ci si chiamano Kula Kittesenisti, ma anche Kittesen. Vabbè, ci spieghi. È chiaro, spieghi chiaro, tutto è chiaro. Sempre sì. Quello che è. Ci spieghi qual è questo protocollo? Certo, certo, scusate, arrivo subito al dunque. Quindi abbiamo fatto questa meditazione, abbiamo un po' ritoccato questo antico modo di fare meditazione, quindi seduti, calmi, occhi chiusi, respirazione, concentrarsi sulle sensazioni corporee, mentre lo sottoscritto gli esitava un karma, per infondergli più sicurezza, più capacità di gestire le proprie emozioni nei confronti degli svizzeri. E questo mantra... Un mantra, ok, scusi. Allora, questo mantra, se volete io posso anche dire, quindi seduti, tranquilli, ci soffuse, musica tranquilla, mentre in silenzio ascoltando il seguente mantra che recitava: ma che cazzo, come cazzo fai a cagare sotto i gigli qua senza la luce, non sanno neanche Yuga Brist. Quando fa l'Europa i cazzo di loro, cioè non sanno neanche io che pallone, poi pure io capisco, ma vieni a chiappare il pallone non si canto sette la porta, se no si stacca, non ne ripeto perché faccio stacca la capa a morte, che quella vecchia che lì dentro storta avrei mangiato dei cristi, faccio cagamocca la nebbia, perché non pure su sei nebbia, faccio cagamocca, faccio vedere quando caga, non chiama più nebbia, hanno chiamato palude, hanno chiamato. E poi questo, sai che faccio? Ma mi chiama Petra, che la soccola di Clara, ti faccio vedere come sei sulla carrozzella e fuori in da porta. No, sì, la carrozzella. No. No. E funziona, pare che funzioni, però. Cioè. La carrozzella, no. Beh, sì, sì, soprattutto all'ultimo sottolineare la parte in cui si dice stinguacchiata. Certo, certo. Bene, comunque io sono veramente, mi permetta, non è piaggeria, mi permetta dire che Runtime Radio tutta è orgogliosa di avere un personaggio del suo calibro. Ma io sono orgoglioso di stare qui con voi. Dai, sentite, bravo, l'applauso, bravo, l'applauso. Professore, se mi permetta, questo mantra. Cosa? Mantra. Oddio, cosa? Mantra. ecco, lo dica con le parole giuste. Mantra, che dica, scusa. Cioè, è possibile trovare una trascrizione? Metti che lo voglio usare anche qualcun altro. Ma sì, ma sì, ma sì, ma lo trovo sicuramente nell'articolo completo, in peer review, quindi. Su quale saggio? Pubblicato. Saggio quale numero? Non so, su una rivista internazionale del okay. Concade, quindi okay. Di Mazzo e Panel, quindi. Benissimo, benissimo, la ringraziamo dottore, è stato sempre prezioso. Grazie, grazie. Orgoglio italiano. Arrivederci. Oh yeah, yeah. Ricordiamo che se l'Italia vince è gran parte merito del professor Pippo Campo, insomma, quindi. A proposito dell'Italia vince, tra l'altro ci siamo 2-0, quindi esatto. C'è il nostro amico Criceto che lo vedo che sta proprio in fibrillazione, perché non è un Criceto, è un Wombato. C'ha ragione, un Wombato. C'ha ragione, povero Wombato, cioè, no, sta tranquillo. Comunque volevo dire che da bambino ho ucciso un Criceto. Sì, vabbè, fatto nel bene. Nel microonde? Me la sono dimenticato sotto il sole. Ah, vabbè. Bella morte. Senza la protezione. E il Wombato scottato. E vabbè. Succede. Niente, anche questa volta si è addormentato. Perché continui a chiamare le persone che dormono? Perché continui a chiamare le persone? Perché continui? Perché continui? Per permettergli di vincere il premio di Runtime Radio per Eurocalcio 2021. Un premio che non riceveranno mai. Servizio di segreteria telefonica. Allora, lasciamogli un messaggio. No, per rispondere la segreteria telefonica di... Ah, no. Ok, tutto a posto. Ciao privacy, ciao Dead Nightmare, tutto bello. Ciao, ciao, privacy, ciao privacy, salutiamo. Ciao, ciao privacy. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Privacy, dove sei? Oh yeah, privacy, yeah. Dove vai? Cazzo ne so, sulla privacy, non te lo dico mai. Oh yeah yeah. Privacy, privacy, privacy. Telefona con la privacy. Oh yeah, yeah. Privacy. Bello, bello, bravissimo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Che sintonia, che bravi. Sintonia. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Giusto, giusto. Bravo, sì. Ma senti, ma questo bombato, Francesco, ma ce l'ha un nome? Perché io se... boh, no, no, ce l'ha un nome, Francesco, questo bombato? Donato, Donato il Donato bombato. Il bombato. Allora, Donatino, caro Donatino, se, ci sei quasi. No, no, si incazza, Donatino si incazza. Donatone. Donato. No, Donato. Caro Donato, ci siamo quasi. Abbiamo tempo per sopravvivere. Quanto siamo arrivati? Al 60esimo? Siamo al al 70esimo? Siamo quasi al sessantottesimo, mancano quasi ventina di minuti, dai. No, vabbè, sì, poi c'è anche il io a questo punto prenderei un piccolo break con un brano delle Stupide Creature. Ce lo ascoltiamo e torniamo fra poco, giustamente. Ti conosco sin dai tempi scuola, non ti ho mai lasciata sola, ti tenevo sempre per mano, tranne il giorno in cui ti azzannò un alano. Ti stringevo sempre forte forte, soprattutto dopo la tua morte. Cercavamo di fare l'amore, ma era troppo intenso il tuo odore. Per fortuna ho studiato da chirurgo, prima dell'imbalsamazione c'è lo spurgo, formaldeide e tanta pazienza. Ti ho fatto anche i seni che prima ne eri senza. Ho deciso di farti una proposta, non vedo l'ora di ascoltare la tua risposta. È il mio sogno e ti sposerò, tu di sicuro non mi dirai di no. Quel vestito da sposa, che bella che sei, dal candore ceramica, pure libata per me sei rimasta. Ora che siamo sposati, facciamo un figlio, dai. Sanno che vuol dire sentirsi amati. Molti amici sono rimasti indignati, dal puritano alla più porcella, quando ho saputo che tu sei mia sorella. Sai, non riesco proprio a darmi pace, fa l'amore, capito, non ti piace, ma i bambini non crescono nell'orto. Amore mio, adottiamo un bel aborto. Ora che noi siamo in tre, che bello che è il calore del brivido. L'unica e vera per me è la mia famiglia ideale. Sono un sentimentale. Allora io mi permetto di sfumare questa canzone, perché lo sa, ma era già concordato con Marco, perché dura un boato e allora io faccio un po' quello radiofonico stronzo, insomma. Non abbiamo abbastanza partite per farle sentire. Esatto. Tanto Immobile si è mangiato un gol. Però volevo dire a Marco Gualdi che la Svizzera ha fatto un contropiede mangiandosi anche un gol, quindi il bombato Wombato ha rischiato, insomma, di sopravvivere. Noi dobbiamo augurargli di sopravvivere, noi siamo animalisti. Sì, no, beh, io infatti so. Mica è colpa nostra, se infatti, ma noi mica prendiamo gli animali per farli morire, noi cerchiamo di trovare un nuovo mito, insomma, come il polpo Paul. Esatto. Insomma, vabbè, scusate, stupide creature, che vi interrompo le canzoni in questo modo, insomma. Brutale. Oie. Oie. Il fatto è questo, Simone, è che in realtà la canzone è così, è sfumata. La canzone la canzone era quasi finita. Il problema è che dopo, per ragioni proprio logistiche, avevamo messo uno sketch. Quindi la lunghezza è dettata dallo sketch dopo, non dalla canzone che avete cribio interrotto sul più bello. Bene, quindi ci odiate per questo, giustamente. La rimette anche la prossima volta. Fatevi sentire. Oh yeah. Pizzi ha tolto una canzone. Pizzi. Dove c'era sketch bello lungo come il mio pisello, divertente, grande, forte, divertente, ma non lo sentirete mai. Ma che cosa? Ma dove? Ma che state a dire? Vabbè, comunque dai ragazzi, lo sketch era la parte lunga. Lo sketch è bello quando dura poco, insomma. Esatto, infatti potremmo sempre riciclare. Ma guarda che non era un'osservazione, era non era una contestazione, scusami, ti stavo spiegando che il problema era quello che non l'avevo tagliato io a cipigna. Annaggia la miseria. Intanto la Svizzera la Svizzera deve cercare di tenere un vita un vombato. Esatto, quindi, secondo me è per quello che lo stanno facendo. Cari svizzeri, se muore un vombato è solo colpa vostra, quindi se muore il bombato è colpa vostra. Così era. Tanto contropiede micidiale dell'Italia e Ciro Immobile si è mangiato un altro gol. Perché Ciro Immobile sa bene che se dovesse segnare e poi è morto il bombato, avrebbe ucciso lui con il suo piedino il povero bombato. Comunque una serata di donne che ci ascoltano e che a turno non riescono a sentirci. Calmo, non è successo niente, calmo. Ancora calmo. Non è successo niente. Ragazzi, qui funziona tutto, lo streaming funziona, lo streaming su Spreaker funziona. Noi funzioniamo, non so che dirvi ragazzi. Il problema è che sono le vostre linee, diciamoci la verità. Non siete in linea ragazzi, Bravo Simone, bravo. Ecco. Scacciamo le donne, scacciamole. Bisogna dire le cose come stanno, insomma. Uyeye. Va bene. Marco, allora vogliamo parlare un po' della partita? Non abbiamo parlato di niente. La partita è molto bella, molto intensa, c'è tanto movimento. C'è questo spirito del vombato che è un po' dietro tutto quanto lo svolgimento, per cui sono un po' contratto, un po' condizionato la partita. Infatti le squadre adesso sono un po' contratte perché sanno bene, gli italiani sanno bene che se segnano un altro gol il vombato schiatta subito. Comunque io voglio dire una cosa, sì. Google si è sbagliato. Cioè? Perché noi quando gli abbiamo detto l'altra volta qual è la prossima partita d'Italia, lui ha detto l'Italia giocherà con i rosso crociati. E questi non sono rosso crociati, cioè hanno la maglietta bianca. Perché c'è pure noi che prima eravamo azzurri e c'avevamo la maglietta bianca. Non è che c'era scritto che ne so. Sai, lo sapevate che la Svizzera. Non è che si dice con chi gioca la prossima partita dalla Turchia, diceva giocano con gli azzurri. Allora sì, sarebbe stato la loro maglietta ufficiale è rosso crociata. Ma lo sapevate che la Svizzera insieme a Città del Vaticano è l'unica nazione al mondo insieme a Città del Vaticano ad avere la bandiera quadrata? No, forse secondo me pure sapevate pure che l'unico paese al mondo, stato al mondo insieme a Città del Vaticano ad avere le guardie svizzere. A prescindere, tutte le guardie svizzere sono guardie svizzere. Certo, se vestono come i pagliacci. Barella a terra, che succede? Cioè praticamente tu dici, se tu fai, ne so, il poliziotto in Svizzera, uno dice, ma tu che lavoro fai? Io faccio la guardia. E quindi, sei la guardia svizzera, giustamente. Ma comunque, la guardia svizzera, comunque, lamenti in diretta. La guardia svizzera è una guardia letale, perché tu la guardia e dici, ma che è sto stronzo? Attenzione, contropiede d'Italia, attenzione. Invece, attenzione, contropiede d'Italia, attenzione, attenzione, sullo spazio, ma niente. C'è la guardia svizzera, tu dici, tu lo prendiamo, che è sto Klaus, invece la guardia svizzera, mentre tu lo prendi in giro, ti infilza alle spalle, giustamente, perché tu ti sei girato perché non gli hai dato una lira, e invece la guardia svizzera, attenzione, l'arbitro sta prendendo in mano un cartellino, no, si sta toccando i capezzoli, sta prendendo in mano un cartellino e sta indicando gente a casa, tipo, tu vai via, tu, chissà che nazionalità è l'arbitro, e comunque il cartellino è giallo, sta inseguendo qualcuno con il cartellino giallo in mano, perché hanno Embolo ha ucciso Barella, cioè regà, vedete, questa è veramente una battutona, mamma mia, c'è gente che c'è morta. Diciamo che i svizzeri ci stanno andando in puzza. L'unico giocatore Embolo è stato ammonito. L'unico giocatore tipicamente svizzero, proprio dalla carnagione svizzera, diciamo. Sapete che se Embolo prende due ammonizioni diventa una trombosi. Quindi sapete. Ma ci hanno manco avuto. Guarda, sono morti nel frattempo. Non ci hanno avuto neanche la prontezza. Mazza che stronzo. È ritardo. Quello ce l'abbiamo noi, il ritardo, veramente. Cioè, no, però. Ma è proprio il ritardo di schipe. Ah, di schipe. Ah, schipe. Vabbè. Ma pure schipe, ci si mette. Mannaggia. Comunque, bene, in Italia, diciamo, c'è questa cosa che in questo momento è contratta e quindi non attacca, ma non attacca. Gli svizzeri invece si sentono di dover dar tutto. Io credo che faccia molto caldo, ragazzi. Penso che faccia veramente molto caldo. Mancini si è levato la giacca, bellissima giacca, esce immobile. Sudano, stranamente stanno sudando. E quindi gli svizzeri si sentono anche loro in dovere di dover segnare ad ogni costo per salvare la vita al Vombato. Quindi c'è questa cosa, cioè non sono squadre serene in questo momento, quindi non vedo molta serenità, e questa cosa inficia nella qualità del gioco, insomma. Io però, prima che finisca la partita, per parlare in italiano, vabbè, che siamo, esatto, io farei l'ultimo collegamento, che è un po' un collegamento anche questo, che diventerà un po' una tradizione, no? Che alla fine comunque c'era anche nella prima puntata, e perché poi anche lì vogliamo sapere poi come va a finire, no? Quando, insomma, abbiamo sentito che nel finale dell'intervista, Marco, che diceva, insomma. Sì, faccio una piccola premessa per coloro i quali non hanno potuto ascoltare cosa è successo la settimana scorsa. In sostanza, noi siamo riusciti ad intervistare, sempre per Runtime Radio, di Simone Pizzi, una importantissima figura che spesso viene lasciata da parte o quantomeno sottovalutata, che è il cuoco della nazionale, o meglio il cuoco della partita, cioè colui il quale prepara delle prelibatezze e per l'Italia e per la squadra rivale. E quindi siamo riusciti a raccogliere questa intervista con questo famosissimo cuoco che si chiama Titino Tinto. Carissimi amici, bentornati alla nostra rubrica settimanale dedicata alla cucina, all'alta cucina, la meravigliosa rubrica. Alt. Io non discriminerei questa cosa, alta cucina. Allora, no, snobbiamo la media cucina e la bassa cucina. Hai ragione. Cioè, gli amici all'ascolto. Sì, chiedo scusa agli ascoltatori. Sono anche degli inetti. Esatto. Oppure delle persone non proprio di altissimo livello, come il nostro mediocri. Chef. Esatto, mediocri. Dei mediocri. Ma anche meno dei mediocri, proprio dei porasci. Allora, diciamo che è una rubrica dedicata al menù del campione. Esatto, il menù del campione. Menù del campione. Cari amici, l'onore è ancora una volta di presentarvi Titino Tinto, grandissimo chef, fama internazionale, ha lavorato praticamente ovunque, alberghi di lusso, aerei, navi da crociera, pullman di lusso, isole, penisole, isole di lusso, penisole di lusso. Nella scorsa puntata abbiamo detto che Titino Tinto ha addirittura lavorato già dall'età di 16 anni in Scozia, invece a 20 anni, ci diceva prima in un fuori onda, lei si è recato dalla altra parte del mondo, precisamente in Giappone, posso dirlo? Sì, certo, come no? Giappone è un paese straordinario. Tu sei mai stato in Giappone? No, veramente no. Guarda, appena atterri in Giappone, da qualsiasi di parte a terra e tu arrivi, secondo semaforo sulla destra c'era mio Alberto. Ecco, Tito Tinto è famoso perché è non solo un grandissimo cuoco, ma è addirittura il cuoco delle nazionali, cioè prepara il cibo degli atleti che noi vediamo giocare durante questo Euro 2021, in modo particolare la nazionale azzurra e i suoi avversari. Sì, ho avuto questo onore e devo dire che veramente ho accettato subito appena mi è stata offerta questa possibilità, perché insomma dare da mangiare alle azzurre è una cosa che ti capita una sola volta nella vita. Allora Tittino, ci dica cosa hai preparato come menù questa sera? Stessa roba, però solo con una piccola differenza: per la nostra compagine gli azzurri ho fatto la carne fresca, invece per i nostri amici, diciamo così, della Svizzera ho scongelato quella della settimana scorsa che avevo messo in freezer, che i turchi non mi avevano mangiato. Allora, il menù consta di questi seguenti piatti. Per iniziare, una bella tartare di fassona scongelata. Come primo, un piatto internazionale, le tagliatelle con il ragù alla bolognese scongelata. Come secondo, per stare comunque un po' leggeri, un bello stinco di maiale con un contorno di patate ripiene di ragù che mi era avanzato, delle patate, tutto scongelato. Tutto accompagnato con un po' di salsa bernese. E devo dire che ci sono rimasto male, perché gli amici svizzeri non hanno toccato cibo, antucane got, non hanno toccato niente. Anche perché, ma scusami un attimo, con tutte le mucche che ci sono in Svizzera, non farà mica solo il cioccolato, eh. Vabbè, ma non vorrà mica buttare via 400 kg di carne. Assolutamente no, ma è pazzo, nel maiale non si butta via niente. Anzi, sa cosa faccio? Adesso parlo a bassa voce perché è meglio che non ci sente nessuno. Con chi giochiamo la settimana prossima? Con Galles. Allora sa cosa faccio adesso io? La ricongelo un'altra volta, tanto in gallese, no? E settimana prossima la riscongelo e gliela do ai gallesi, tanto da un popolo che mangia la pizza col prosciutto e l'ananas, che cosa ci possiamo aspettare? Vabbè, ringraziamo il nostro chef, meraviglioso, Tittino Tinto, grazie mille. Grazie Tittino. Grazie Tittino, alla prossima. Grazie a voi. Beh, certo, che specialità, mamma mia. Certo che non ci fa sempre una bella figura, insomma, diciamo. Uyeyeh! Al Galles gli cuciniamo. Ma comunque la prossima puntata è sempre lo stesso tema, oppure? No, ci sarà il reggae gaelico. Il reggae gaelico, bravo. Sì, vi possiamo far sentire un'anteprima della musica tipica gallese che noi abbiamo studiato per circa 12 anni. Mm-hmm. E abbiamo realizzato 7 album dedicati a loro, non li ha sentiti nessuno, però neanche loro. No, neanche il fonico che l'ha mixato. Era sordo, infatti. Vi facciamo sentire per la prima volta un piccolo pezzo dedicato al Galles e ai suoi amici. Mi sembrava più che corretto. Intanto c'è stata una standing ovation. Come si dice? Standing ovation. Standing che, ovation per te. Mentre che uscivano. Che minuti portate voi, raga? Noi portiamo esattamente all'86esimo. 86 e 10 secondi. E 13 secondi. Quindi insomma più o meno. Mancano 4 okay. minuti di tempo regolamentare. Olivia si adegua al mood della serata e ci dice: è uscito Barella in piedi, coi suoi piedi però. Quindi dovremmo tutti ridere. Yeah! Bravi. Bene, sono sempre cose bellissime. E Perché io mi domandavo prima in chat, diceva, ma non si può partecipare alla prossima puntata come facendo il pubblico? Ma l'intenzione vostra è quella di partecipare? O fa casino? O di ste stronzate? Perché insomma, capisci? Poi è dopo. Arrivato Sant'Agostino. Ah, beh. Volevo dire a Simone che è arrivato, che è arrivato anche Davide Gatti. È arrivato Carlo Sant'Agostino che chiede di essere accettato su Skype. Okay. Lo chiede a me perché tu. Perché tu te ne fotti. Io non so come si fa, quindi lo faccio entrare così e vediamo. Insomma, voi intanto parlate. È arrivato Sant'Agostino. Oh, yeah, yeah. Buonasera. Buonasera. Ah, buonasera. Allora che cazzo vuoi? Scusa, ci stai già. Scusa. Carlo Sant'Agostino. Oh yeah, yeah. Bravo, scusate, bravo. Ragazzi, è stata una giornataccia che tra bambini che piangevano, inseguimenti di computer da tutte le parti, Carlo, però alla fine coi potenti Carlo. Qui dallo Stadio Olimpico con i potenti mezzi di Runtime Radio finalmente riesco a trasmettere con un Commodore 64. Oh, che già è tutta un'altra vita. Massima potenza adesso. Comunque, oggi. Ragazzi, quindi Italia contro Svizzera decentra tutto su una linea sola. Assolutamente, non solo. Ragazzi, collegando. Una cosa importante, una rettifica, mi sono sbagliato a guardare i risultati del bombato. Quell'altra cacca non aveva nessun colore, quindi rimangono solo due cacche azzurre. Quindi il bombato ha previsto tutto giusto. Beh, ancora no, perché è finita la partita. Sì, però era tutto giusto. Però rischia di vincere. Rischia di vincere, bene, bene. Intanto, quindi, però l'Italia ha segnato il terzo gol. Attenzione, niente, bombato. Niente, ha segnato Ciro e tutto lo stadio che fa e oh, Ciro. Simone, dici un po', come si chiama la moglie di Ciro? Si chiama Jessica. Jessica, azzurri, quindi hai indovinato il bombato. Vabbè, ma tu stai a truccare. Che cazzo, è truccato. Non è truccato. Vabbè, ci ho visto male. Quindi quell'altro non era rossiccia, era più azzurrogno. Io non lo so, però io non sono convinto. Ha segnato Ciro. E Jessica, Ciro, dove sta Simone? Dici un po'. Ho scaricato da internet, sì, collegandomi con il Conor 64, la formazione dell'Italia. Ma c'è Alto Belli. Aspetta un attimo, perché Alto la formazione Belli dell'Italia mi risulta Zoff, Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda, Phoenix, Lady Isabel, Gemini, Hilda, Nettuno, Canon, Pandora e Ade. Ah, Nikon non c'è, c'è Canon solo. No, ma chi è sta gente? Poi, chi sarebbe sta gente? Poi c'è nessuno che è nota chi è questa gente. Vedo sì, no, lo sappiamo, ma io non siamo nerd abbastanza. I cavalieri dello zodiaco. Esatto. Bravo. Guarda, abbiamo la Svizzera che invece è formata da Kenshiro, Raul, Toki, Jagger, Ryuken, Koryu. Ma sono quelli dell'altra volta. Yuga, Shu. Va bene, ok. Sono quelli dell'altra volta. Scusa, non mi sembra. No, questa è un personaggio. Mai scorderà. Bene. Allora, intanto 90esimo minuto, abbiamo 3 minuti di recupero. E nel frattempo ci siamo accorti che c'è la partita al 90esimo. 3 minuti di recupero che salvano, che insomma, oramai ufficialmente qualificano l'Italia già di diritto agli ottavi di finale, primo posto irraggiungibile. Francesco, scusa, possiamo anche già iniziare a fare dei calcoli dove giocherà l'Italia. Francesco, mi senti? Sì. Senti, ma quell'ordigno che tu hai dato a Arvombaro, no? Ma che gliela diamo, no? Che sì, però che timing ci hai messo? Che timer hai messo? Ci ho messo il timer, mo vediamo, mo finisce la partita. Ma è finita la partita, sono passati 90 minuti. Che timer ci hai messo? C'hai contato il recupero? Non lo so, aspetta un attimo di trovare la crocchetta, nel frattempo l'ho messa, aspettate. E che cazzo, Francesco? Mi sa che te sei sbagliato. Scusa. No, vabbè, mi sono dimenticato. Ma poi perché continua a scureggiare? Mi sono dimenticato di recupero. Perché al petofono? Perché sgureggia pure da esploso? Cazzo, scusa. Se poteva salvare, raga, scusa, questo è errore mio. No, vabbè, ma sei un assassino, sei un assassino, una cosa indegna. Prima sbaglio a vedere le cose, poi... Ma sono le scoregge quelle che erano dalla luna di Nettuno che hanno scoperto oggi. No, adesso ce lo dici, però so che sulla questione delle scoregge di Nettuno c'è una canzone famosa dell'inizio secolo, se non sbaglio. Chi è stato Nettuno? Ci sono ancora. Vi prego, fate tornare le stupide creature. Salvateci. Questa è la canzone d'inizio secolo. Ti prego, mi rassicura. Amici, tutti insieme, una volta per uno. Uno, due, tre. Vabbè, Non ero pronto. Attenzione, hanno inquadrato due che si baciano e secondo me lei non era proprio d'accordo. Non era d'accordo ad essere baciata? Qualcuno ha scureggiato. Chi sarà stato? Nettuno. Qualcuno ha scureggiato. Chi sarà stato? Nettuno. Vabbè ragazzi, prima che degeneri definitivamente questa mancano due secondi alla fine. Mancano veramente poco oramai alla fine di questa partita. L'arbitro ha suonato la fine della partita. Ha suonato. Aspetta, prima di dire tu. L'arbitro è cornuto. Esatto, come si suona alla fine della partita? E anche stavolta Carlo Sant'Agostino mi capirà, l'abbiamo rubata alla Svizzera. Svizzera attaccata al cavolo. No, però così offendi Marco Bianchi che per un quarto. Marco Bianchi un ottavo del suo quarto è svizzero, quindi bisogna. Tanto si offende solo il quarto svizzero. Infatti, tre quarti. Il resto dei quarti mi continuerà a volere molto bene, quindi sono sicura che va bene ragazzi. Quindi l'Italia vince 3-0. Il bombato, se lo siamo giocato così per errore stavolta, perché prima Francesco ha chiaramente truccato il risultato, perché onestamente io ho questa sensazione. Francesco, tu ha truccato. Ma visto pure voi, mi sono sbagliato io. Non ce la racconta giù. Controllatemi, dovete controllare contro Luri. Okay. Ma che era il fatto di Lulic al 71esimo? Io sono ignorante. No, la cosa di Lulic al 71esimo l'ho detto a inizio. E l'allenatore della Svizzera era l'allenatore della Lazio quando vinse la Coppa Italia contro la Roma in finale all'Olimpico, e con il gol di Lulic al 71esimo. Quindi questa è una cosa che magari non tutti fa piacere, però a noi ci piace invece ogni tanto. Nella chat Melanie scrive: date l'Oscar a Michela. L'Oscar a Michela l'ho scartato, cioè praticamente di tutti i questo è il no dello scartati. Che se lo merita, date l'Oscar a Michela, perché se lo merita. Bravi! Carissimi amici di Runtime Radio, e anche questa ce la siamo portata a casa. L'Italia batte la Svizzera 3-0 e si qualifica al prossimo turno. Ciò nonostante, c'è ancora l'ultima partita del girone contro il Galles, partita che è assolutamente ininfluente, ma per noi è sempre un motivo per stare qui insieme a voi, dire cazzate, suonare canzoni, fare suonare gli scacchi e soprattutto uccidere qualche altro animale che dovrà fare. No, che sennò il PETA si incazza. Ok. Noi cerchiamo di salvare gli animali, sono i giocatori che li fanno morire. Esatto. Insomma, soprattutto Carlo cercare un altro. Sarà. Non mi fate parlare. Sarà presente domenica prossima. Non lo sappiamo. In ritardo sempre. Ah, bravo. Di domenica è più facile che sia anche puntuale. Detto questo, vi ricordo che domani sera alle 21:30 torna, dopo diverse settimane d'assenza, Quando eravamo futuro, con me, Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Roberto Tomaiuolo. Dovrebbe tornare, che insomma sappiamo, eravamo rimasti così, poi non so come va a finire. E a questo punto io ne approfitto per ricordarvi appunto che immagino che da quando l'ho detto mezz'ora fa ad oggi, adesso avete controllato se è domenica che c'è la partita. Sì, no, abbiamo controllato, domenica c'è la partita alle 18. Alle 18, perfetto. E ci siamo già organizzati per non saltare la bagnarola. Perfetto, quindi, perfetto. Tutto quindi, a posto. Quindi domenica alle ore 18 meno qualcosa, diciamo 17.45, saremo come al solito in diretta su www.rantemeradio.it e in contemporanea su Spreaker, se volete, qualsiasi degli due strumenti preferite, e saremo qui per raccontare insieme a voi la prossima partita, che insomma, se non abbiamo seguito queste due che erano importanti, figurate quanto seguiremo quella che non conta assolutamente niente. Io direi che dobbiamo salutarci e ricordare, esatto, che questa puntata ci ha insegnato tante cose sul Vombato, sul tante Vombato, cose sulla Svizzera, tante cose sulle regole del calcio che non sapevamo e che non avremmo mai voluto sapere. E la prossima puntata ci sarà un nuovo animale, io già so cosa, lo porto io, c'ho un animale che non dico niente, ma è fenomenale. Questo ragazzo me lo hanno consigliato, è fantastico, è fortissimo. Benissimo, io ringrazio e saluto le stupide creature. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ascoltano e sono connessi. Vabbè, salutiamo anche Simone Vailati che questa sera ha dato poco. Ha dato poco questa sera, Simone. Simone, facci sentire la tua voce. Ringrazio e saluto Francesco Lobby Frontali di Muro. Bravo, mi accendo al fatto che noi gli animali li vogliamo sopravvivere. Li vogliamo sopravvivere, dovremmo volerli sopravvivere, esatto. Ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino, anche se in ritardo e purtroppo non ha potuto partecipare così come avrebbe voluto. No bungalow. Ringraziamo chiaramente Alex Raccuglia, che purtroppo questa settimana è veramente pieno di cose, quindi ha voluto comunque partecipare pur non essendo insomma al top. Ringraziamo e salutiamo anche Marco Gualdi. Ciao, bravo. Ringraziamo la sopravvissuta a questa serata, perché veramente la sopravvissuta, Michela De Paola. Grazie a tutti, brava, è stato brava, bello. Brava, bravissima. È stato bello risuscitare insieme a voi. Benissimo. E da me Simone Pizzi. Esatto, Simone Pizzi. Simone Pizzi. Mamma mia, ancora così. Simone Pizzi. Esatto. Da me Simone Pizzi è tutto, ci vediamo domenica alle ore 18, anzi alle 17.45 e domani sera alle ore 21.30 con Quando Eravamo Futuro. Ciao e buonanotte.